come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Sì, è vero, detto tra noi, sono solo un brigante, non un re. Sono che vende sogni alla gente, fa promesse che mai potrà mantenere. Favole sì, ne ho contate ma tante, tante sai. Detto tra noi, io non sono un gigante, draghi non ne ammazzati mai, no, no. Ho un progetto in mente. Siamo qui, caro Parenzo. Eccoci. Siamo qui anche oggi con la zanzara 800240024. Berlusconi da un po' di tempo è fissato di intervenire ai congressi delle varie frazioni che sono all'interno del PDL della maggioranza al telefono, no? Via telefono, certo. Via telefono. Oggi era il turno dei cristiano popolari di Baccini e Galati. Li conosci? Ah. Conosci questo? Sì, sono rammaricato, mi dispiace di non essere lì, insomma, per un appuntamento così importante, mi dispiace. Per il futuro del paese, no? Per il futuro del paese, gli impegni mi trattengono altrove, ma vabbè, nel prossimo convegno, congresso, cos'era un convegno, cos'era questa cosa? Un convegno dei cristiano popolari di Baccini e Galati, mi dispiace in cui Berlusconi è intervenuto al telefono, ha detto difendiamo la famiglia. Senti, la famiglia, certo. Senti. Come partito difendiamo, l'ho appena ricordato, la famiglia come nucleo fondante della nostra società, siamo il partito della solidarietà, siamo il partito che difende la libertà d'impresa e la proprietà privata, siamo il partito della responsabilità del merito, ma anche il partito, ricordiamocelo sempre, che non accetta, l'ha dimostrato con questa crisi, di lasciare nessuno da solo ai margini della società. Ne ho contate ma tante, tante sai. Detto tra noi, io non sono un gigante, draghi non ne ammazzati mai, no, no. Questo era Berlusconi, il capo di questi cristiano, come si chiamano? Cristiano popolari. Cristiano popolari per l'Italia di domani. No, quelle popolari per l'Italia di domani. Ah, chiedo scusa, lei è uno dei massimi esperti, direttorissimo di tutte queste. No, veramente anch'io ogni tanto mi perdo. Comunque, cos'era questo? Questo era Berlusconi. Questo era Cristiani Popolari. Popolare. Sì, Federazione dei Cristiano Popolari. Federazione addirittura, quindi vuol dire che sono in sì, sono diverse sono diverse sigle che si sono federati nei Cristiano Popolari, capito, no? Ah, certo. Sì, poi domani ce lo siamo già scordato, comunque in ogni caso pare che uno di questi deputati, che si chiama Giuseppe Galati, possa diventare anche lui sottosegretario. Ma però a un certo punto Berlusconi ha detto benissimo, prendete un appuntamento così venite domani e ci abbracciamo. Risponde così Berlusconi, collegato telefonicamente con il congresso dei Cristiano Popolari, a Mario Baccini, che è il leader dei Cristiano Popolari, che propone Giuseppe Galati come possibile nuovo ingresso nella squadra di governo. Ottima scelta. No, io non lo so, magari è un'ottima scelta, so solo che i posti cominciano a diventare tanti da prendere, cioè da occupare. Va bene, Baccini ha detto che ci vuole la restaurazione della civiltà cattolica e cristiana, così no. Ha detto. Sì, davanti a Berlusconi. Restaurazione! Senti. Colgo l'occasione di ringraziare tanti amici, e in particolare Donna Assunta, che è qui con noi. Veramente un grande grazie, Donna Assunta, per la tua presenza. Ma permettetemi comunque di esprimere la filiale devozione di tutti noi al Santo Padre e il nostro impegno a cooperare fervidamente e senza incertezza, per la difesa della libertà religiosa, contro la persecuzione dei cristiani, per una restaurazione di una società più cattolica e cristiana. Un progetto in com'è che ha detto cooperare fervidamente, no? Per una restaurazione, dai. Ma poi Donna Assunta, che ci fa Donna Assunta? Glielo chiediamo, Donna Assunta, che ci faceva da Baccini? Buonasera. Come che ci faceva da Baccini? Che ne so. Io tanto sono una meridionale e siccome i valori sud sviluppo era sì. Era praticamente sì, ma lei non si faccia valori sud e sviluppo, però lei non la si faccia modernità le nostre ragioni, sì. Era un'assemblea generale congressuale, ho capito, donna Assunta, però cristiani popolari, sì, ma lei con la sua storia, la signora Lirante, era di tutti. Non è esplicita ad una sola serie di gente che la pensano, no, in maniera, certo, particolare. Però lei, che è così, come dire, esperta per quello che riguarda la storia politica del nostro paese, non si faccia abbindolare dei titoli, dei convegni. Ma io non mi faccio abbindolare, ma che mi piglia per una creatura, a me che mi dà la caramella. Appunto, valori, sud e sviluppo. Io sono per queste persone che finalmente incominciano a pensare a questo povero sud, lei in dice, differenza di quello che fa il nord, che pensa esclusivamente a se stesso, dimenticandosi completamente di questo sud, dove arrivano, si prendono i posti migliori, diventano, sì, praticamente i proprietari semplicemente delle persone che votano, dimenticando quello che la povera gente nel sud non ha, essendo una regione completamente abbandonata, lei dove dice, invece ha sempre lavorato e ha sempre dato i migliori della propria, sì, gente. Sì, scusi, però, signora Assunta, al di là di questo... Io sono entrata per i valori, sud, sviluppo. Ho capito, ma non si lascia abbindolare dei titoli. Ma come è entrata? Ancora lei non dice cosa abbindolare. Ma lì chiacchierano. Io l'attacco subito. No, ma no, non si lasci, nel senso... Io non sono un personaggio che si lascia abbindolare. Appunto. Perché sulle cose si ragiono. Appunto. Quando ma che significa? Io ho degli amici favolosi, come tra cui Pino Galati, che mi ha amico da quando siamo ragazzi, sì, e di conseguenza conosco la famiglia, conosco ho capito. Le persone per bene, ho capito. E non parliamo di abbindolare, no, abbindolare, no, è una parola che non gli sta bene. No, per carità, ma non volevo dire che lei si lascia. Ha sbagliato nel dire a me abbindolare. No, ho detto non si lasci, certo, non si lasci. Non deve dire nemmeno abbindolare. Non deve dire, Cruciani, la smetta. Hai ragione, Farezzo, rimprovera anche tu. Cruciani, la smetta di dire che la signora si è fatta abbindolare da questi cristiani. Cristiano popolare. La smetto. Però voglio fare ascoltare quello che è successo oggi alla Camera, dove c'è stato un nuovo scontro molto forte per quello che riguarda la vicenda del processo verbale, così si chiama, del giorno prima, quando c'è stata la rissa tra la Russa e Fini, e non solo tra la Russa e Fini, perché i ministri arrivavano in fretta e furia, non solo i ministri, abbiamo visto anche uno scilipoti correre per approvare questo famoso processo verbale, che è la ricostruzione di quello che è avvenuto il giorno prima. Fini a un certo punto ha chiuso il voto, ma sentiamo Di Pietro che riassume tutto. Non hanno il fisico per correre, sentiamo. Hanno sospeso il Consiglio dei Ministri, come avete visto, tutti i ministri sono messi a correre per arrivare qua. Ora, c'è chi c'ha il fisico e chi non c'ha il fisico, evidentemente. È successo che aspetti un secondo, mezzo secondo, un minuto, due minuti, tre minuti, quattro, cinque minuti. Alla fine, uno ogni tanto arrivava, dopo un po' abbiamo cominciato a dire al Presidente, ma insomma, è una votazione in corso, di chi ha votato e chi non ha votato. Sì, è vero. E a un certo punto Fini ha chiuso il voto, che era sfavorevole alla maggioranza. Adesso non sto qui a spiegarvi i dettagli di questo voto. Era un voto sfavorevole alla maggioranza, perché la ricostruzione di quello che era accaduto il giorno prima non soddisfaceva la maggioranza. Onorevoli colleghi, il ministro Brunetta ha votato, il ministro Fitto ha votato. Ministro Alfano, prego. Ricordo che i colleghi che sono in aula hanno diritto di votare. Dichiaro chiusa la votazione. Onorevoli, è stata dichiarata aperta oltre ogni limite. La Camera respinge a parità di voti. La seduta è sospesa. A un certo punto sembra, ma ci sono testimonianze concordanti, che il ministro Alfano, addirittura il pacatissimo ministro Alfano, caro Parenzo, abbia tirato la sua tessera. La sua tessera per votare, no? Sai che c'è il voto elettronico. Sì, la tessera della deputata. Donati che dice: ho il tesserino di Alfano lanciato con violenza. Mi riferisco anche al comportamento tenuto pochi minuti fa dal ministro Alfano, il cui tesserino parlamentare o io qui invito il ministro stesso o i commessi a venirlo a ritirare, perché al momento del voto il ministro Alfano, non essendo riuscito a votare, lo ha scagliato con forza tra i suoi banchi, e credo che possiate tutti giudicare che se da dove è seduto il ministro Alfano il tesserino è arrivato addosso a un collega dell'opposizione, la violenza fosse importante nel lancio. Allora. E va bene, succede una al giorno, caro Parenzo, in aula, ne succede una al giorno in aula, stavolta contro Fini per aver chiuso il voto prima. Poi c'è addirittura il caso di un deputato della maggioranza molto conosciuto, che noi conosciamo molto bene, Osvaldo Napoli, il quale avrebbe detto alla deputata con handicap, deputata e basta, però è anche con handicap, Ileana Argentin, anzi all'assistente di questa deputata, non battere le mani. Si dà il caso che la signora Argentino non possa battere le mani in quanto appunto handicappata, colpita da una grave malattia, e lei in aula ha detto: io batto le mani come voglio. Si è appena avvicinato un collega e già lei sa che questo è avvenuto, per dire al mio operatore che non deve permettersi di applaudire. Allora io ricordo all'aula che io non muovo le mani. Ma come si permette? Non desidero le scuse di nessuno. Credo che lei mi conosca abbastanza per sapere che non strumentalizzo mai queste cose. Ma se io desidero applaudire un mio avversario, lo faccio come credo e quando credo. Se non lo posso fare con le mie mani, lo faccio con le mani di chiunque. A un certo punto pare che un leghista, durante questo discorso, ma lui poi smentisce, avrebbe detto... falla stare zitta quell'handicappata del cazzo, proprio questa parola, si sembra, poi in realtà questo leghista smentisce, speriamo che non sia così, veramente. Qualcuno ha detto una frase del genere, ci dispiace, speriamo, per queste cose, signora Almirante. Questa è una vergogna senza limite, ne succedono di tutti i colori. Siamo nel degrado completo. Che vuole siamo fare? Nel degrado completo, brava, mai brava, capitate Assunta, cose brava di questo genere, mai capitate. Il degrado, lo dica signora Assunta Almirante, il degrado di questa grosso, maggioranza, lo dica, brava. Sono gli uomini che ci rappresentano, che hanno questo linguaggio da porto, farebbero bene ad andare a spingere le barche e non a pensare di riformare o di dare aiuto e riforme al popolo italiano. Senta, ma ieri lei ha seguito con tono da Istituto Luce, sentito no? Ha seguito, signora Almirante, ha seguito, signora Almirante, la discussione che c'è stata tra la Russa e Fini? No, non l'ho seguita. Beh, ha letto sui giornali tra la Russa e Fini che sono volate parole grosse, sembra uno, lui diceva stai zitto, un vaffa forse, anche ma se non poi creda, ma non credo, Ignazio è un signore, queste cose non le fa. Beh, insomma, un po' agitato, non ci credo, è un po' agitatello io in questo periodo. Non l'ho sentita, quindi io non sono per il fatto di dire l'hanno detto, l'ho sentito, io rispondo di quello che sento personalmente. Sì, però ma insomma, che dicono, l'ha detto, che... l'ho sentito, mi ero davanti, non ci credo. Vabbè, ho capito, però c'è una ricostruzione dei giornali. Io ho i giornali, quindi la leggo attraverso i giornali, però tanti giornali non è che sono tanto credibili poi. No, ho capito, però là c'è una ricostruzione anche fatta da esponenti della maggioranza in cui sembra che la Russa fosse leggermente agitata. Sono in grado di chiedergli alla Ignazio. Ecco, cosa le vuole chiedere? Posso telefonare e gli dico: Ignazio, ma è vero che tu hai detto queste cose? È vero che hai mandato a quel paese Fini? Ecco, è vero che l'hai mandato a quel paese Fini? A quale? In un mondo in cui siamo carichi di extracomunitari, può darsi che l'abbia mandato in uno di questi paesi dove praticamente sono vuoti. Vabbè, ho capito. Visto che stanno venendo tutti in Italia. Lì è un baffa, signora Almirante, lì è un baffa, non è che ha detto vai a quel paese. Vabbè, è un baffa, può dire pure un baffa, può dire per i fatti suoi. Vabbè, un baffa è un baffa. Dovuto dire per forza a lui. Sì, lui dice che era rivolto a Franceschini e non a Fini, poi si sono sentiti. Vabbè, Franceschini poi manco, io credo che si sente bene, che ne so. Beh, insomma. Però diciamola così, signor Almirante, Giorgio Almirante mai avrebbe mandato a fare in culo il presidente della Camera, giusto? Ma no, c'era altra gente, era un altro mondo, perché dobbiamo fare sempre i paragoni con uomini che sono nati in una maniera diversa, che avevano un'educazione diversa e che non c'era questo rispetto reciproco, che ognuno che erano uomini di coerenza, che quando sono nati sono morti? non facciamo paragoni. Beh, dunque, lei, no, lei sta di, non di prenderci quello non che abbiamo, paragoni. Quello che avete votato, ecco. Vabbè, avete, perché noi non abbiamo votato. Sono uomini che si sono nominati fra di loro. Signora Assunta, però allora lei ci sta dicendo che se avesse pronunciato, se avesse detto quelle cose, la Russa è stato un maleducato. No, no, io le sto dicendo che siccome non lo so e siccome la Russa è una persona educata, non credo che l'abbia detto. Ma scusi, non le sembra un po' agitatello di recente, dall'episodio con Anno Zero? Ma perché dovete dire che è agitato? Io mi arrabbio quando sento che è agitato. È il suo nome, è il suo temperamento. Come è fatto? È sempre giovane, un uomo brillante che si è sempre mosso in una certa maniera. Come mai adesso lo vedete strano? Quale maniera si è mosso? È stato così. Cioè come? Cioè, nel senso che è stato ruspante, un giovane che ha avuto il diavolo con tutti, che non è stato fermo mai, che si è sempre mosso. Quindi, beh, si muove un po' troppo. È il suo carattere, il suo modo di fare. Ognuno di noi è, c'è chi dice il rosario e c'è chi non lo dice, no? E lui non lo dice, certamente. Ma certamente è un uomo fatto così, perché bisogna dargli adesso addosso, perché avrebbe detto vaffa, ma ha potuto dire a chiunque. Perché l'ha dovuto dire per forza al suo ex amico? Sembra, ma lui insomma, e sembra, quindi il sembrare non è una certezza. No, beh, su questo, no, su questo non c'è dubbio. Però voglio dire, riconoscerà, no, l'eleganza con cui Fini ha condotto il dibattito parlamentare. Maestro, tu sei non riconosco l'eleganza di nessuno, perché non ne vedo eleganza. Traffico, come? Torniamo subito. Tu, Parenzo, sei troppo finiano. L'eleganza, che vuol dire l'eleganza? Anche lui è un uomo di parte, su, diciamo la verità. Ci vuole una grande, enorme ambulanza per quello che è accaduto in questi due giorni alla Camera, non c'è dubbio. 800240024, questa è la Zanzara. Da Roma in collegamento, donna Assunta Almirante, molto schifata, se posso permettermi, signor Almirante, per quello che è accaduto e che sta accadendo alla Camera. Sembra anche che il presidente della Camera, Fini, abbia detto alla Russa in risposta: vai a farti curare, fatelo curare, no? Questo avrebbe detto Fini, questo avrebbe detto. E Scilipoti oggi, Scilipoti, caro Parenzo, chiede addirittura le dimissioni di Fini. Le dimissioni di Fini. Scilipoti. Come ha ragione, signor Assunta? Ho l'impressione che Ignazio La Russa non ha bisogno di essere curato, è talmente sano. Che sprizza salute da tutte le parti. Però insomma, capisce che poi nella, no, nella discussione ci possono essere anche frasi pesanti di questo tipo. Ma una è la discussione, una è andare in un ambulatorio o in un ospedale a farsi curare. Può darsi chi esprime queste cose sarà un medico bravo, e allora che incomincia a farsi curare lui, perché Ignazio non mi sembra che sia un uomo da farsi curare, è un uomo talmente sano che non mi sembra proprio. Dunque da farsi, lei dice, è un modo di dire fatelo curare, fatelo curare, ma tutto non si può dire nella vita, fatelo, fate questo, fate quello, ma che siamo delle creature? Fatelo, fatelo, ma che ma è un uomo che è arrivato a superare i 50 anni e lei dice fatelo, ma che è una creatura che lo porta in ospedale? Incomincia ad andarci l'esperto che fa la diagnosi, no? Ma è un modo di dire, signora, come dire si calmi. Ma perché sì, è un modo di dire, ma se è un modo di dire quello che ha detto il medico, sì, è un modo di dire anche quello che ha detto la Russa. Perché andate solo su un binario solo? È lui che va su un binario, è Parenzo che va su un binario. Ma no, ma io sono allibito dal fatto che la signora donna Assunta Almirante, con la storia che ha, mi difende pure Scilipoti, cioè da Almirante a Scilipoti, ma si rende ma conto? Ma chi è suo Scilipoti? Io non so chi è suo Scilipote. Io per telefono non vedo le persone. No, Scilipoti, Scilipoti. Io difendo solo questi atteggiamenti che vengono presi inutilmente quando trascurate le cose serie. Guardate quello che sta capitando a Lampedusa, guardate quello che sta succedendo a proposito, in Italia, pensate a queste cose serie, scusi non un attimo, alle fesserie della parola. Scusi un attimo, signora Assunta, a proposito di quello che succede a Lampedusa, a proposito di quello che succede a Lampedusa, ma Berlusconi che va là e fa quello show, che si è comprato la casa, ma insomma, di che stiamo parlando? Io non vi ho sentito parlare di Lampedusa, però dico la Lampedusa. No, ieri sto parlando di cose serie, ho non capito, delle fesserie che ti dice va qua e va là, mosse di qua, mosse di là. Scilipoti, la russa, eccetera, eccetera. Le parliamo di cose serie. Berlusconi è andato ieri a Lampedusa e ha promesso qualsiasi cosa, che se, di comprarsi una casa, il casinò. Mi pare che stanno trasferendo questi, che poi la questione vera è questa, che hanno lasciato questi porti aperti a tutti, mentre l'Europa non è fatta solo di appoggio dell'Italia. Debbono andare in Spagna, debbono andare in Francia, debbono andare in Germania. Vabbè, siamo d'accordo, perché però esclusivamente solo in Italia. No, lei ha ragione. Rendono la vita difficile a questa povera gente che vive praticamente di turismo solo i periodi estivi. No, ma io su questo le do ragione, però qui stiamo parlando di un'altra cosa. Berlusconi ieri l'ha visto che prometteva qualsiasi cosa a Lampedusa? Ma io non l'ho visto, non c'ero. Come no, ma ho capito, ma ha sentito. Non vede niente allora. Ma l'ha sentito in televisione, l'ha sentito in televisione. Non l'ho sentito in televisione. Non l'ha sentito. Non l'ho sentito, ma ammettendo che si sia comprato una casa. Vabbè, come ammettendo? L'ha detto lui. Beh no, non è niente di grave. Ma cosa vedete? Ma suo marito, magari si è comprata la casa e ci mette dentro 2, 3, 4, 5, 6, 10 tunisini. 10 tunisini non credo. Vabbè, ma lei non crede, ma dovete pensare sempre alle cose peggiori. No, ma voglio dire, ma non è un pochino più ottimista. Scusi, signora, questo chi sta in piedi no, e non perché sa come sbrogliare le situazioni. No, però signora Mirante, lei non crede che Berlusconi sia un personaggio che promette un tantinello di più del necessario, un poco più del necessario, però sei uno che promette troppo, no? Un cacciabanzi, ma guardi, in un momento di tragedia come questo, se abbiamo un presidente del Consiglio che dice piangete tutti, disperatevi tutti, tiratevi i capelli, viva tutti, l'ottimismo, ci deve dire praticamente, cerca di fare del meglio per cercare di confortare quest'Italia che in fin dei conti ho sentito poc'anzi, che le strade sono piene di macchine che partono. Beh, quello sì. Tutta questa grande tragedia, da questa grande tragedia di gente che sta malissimo, che sta, io non riesco a vedere. Ma quello è il traffico. Sono pieni. Sì. C'è una parte dell'Italia che sta male. Senta, sì, ho capito. Lei dice Berlusconi va là e fa, perché è un ottimista di natura, non è che può infondere. No. Che può dire? Piangete, disperatevi, ammazzatevi fra di voi. Ma lei farebbe, che cosa farebbe lei al posto suo? Ma io dico a lei che farebbe? Ma io non lo so, certo il campo. Ecco, non lo sa, ma nemmeno lui lo sa. Il campo da golf non lo prometterei, forse, non lo so, è intuito, però. Però magari c'ha ragione lui ed è un genio da questo punto di vista, non lo so. Comunque, guardi che in realtà la questione della casa è pure in dubbio, perché oggi il presidente della regione Sicilia, Lombardo, dice: ho la sensazione che Berlusconi la casa a Lampedusa non l'abbia comprata veramente. Ma non è vero. Aspetti, aspetti. Sono stata a questo congresso dei popolari e tutti dicevano che non era vero. Cioè? Che cosa? Che non l'aveva comprata. Ah, che non l'aveva comprata. Ha detto una balla allora ieri. Allora ha detto una balla ieri. Ma tutti lo dicono. Ma magari se vado in un posto che mi piace, che è un mare meraviglioso, vedendo, ma quasi quasi mi comprerei una casa. Ma allora, per Berlusconi la casa è comprata. Ma ha fatto un comizio intero su questo. Mi sono comprato la casa, mi sento lampedusano. L'ho sentito stamattina la manifestazione che ha fatto. Comunque a lei hanno detto che la casa non se l'è comprata. No, a me, io ho sentito quello che ha detto, ma di casa non ne ha parlato. Vabbè, non ha parlato. Non ha parlato oggi. Ha parlato di sì, tutto, ho capito. Più a Lampedusa, vabbè. Che avrebbe provveduto, che avrebbe fatto. Vabbè, devo lasciarla al giornale radio. Giornale radio, ci sentiamo dopo. Siamo qui, caro Parenzo, 19:18, 800 24 00 24, Giuseppe Cruciani in collegamento dalla sede del Sole 24 Ore di Viale Monterosa. Se volete venire a tirare qualche pietra, sono qui, ma attenzione che c'è la Digos e ci sono le telecamere. Invece Davide Parenzo in collegamento dal Granducato di Toscana questa sera. E il numero da Viale Cesare Maccari. Vabbè, non dare troppe indicazioni, basta già. Ma chi se ne frega, tanto sto partendo ora, quindi. Vabbè, ma c'è la tua famiglia là, abbi pazienza. Viale Cesare Maccari. E il numero? Il numero è una piazza, è una piazza, la Lizza per i senesi, insomma. Tanto tra poco me vado, per cui. Lancia il nostro telegiornale preferito, per favore. Allora, a Radio 24, la Zanzara di Cruciani, il TG3 di Bianca Berlinguer. Bye. Esplode un pacco bomba nella caserma della Folgore a Livorno. Grave, un ufficiale della brigata ferito al volto e alle mani. Si segue la pista anarchica. Bagarre in aula sul processo breve. Fini, colpito da un giornale. Alfano lancia la tessera per votare e alla fine tutto rinviato. Berlusconi promette saremo 330, ma crescono le tensioni nella maggioranza. Bossi critica la Russa, doveva stare zitto. Maroni ammette, Tunisi non collabora sui rimpatri. Poi alle regioni, nessuno può tirarsi indietro, ma il piano non convince i governatori. Partite da Lampedusa due navi con 2300 immigrati diretti a Manduria. La protesta dei tunisini, in attesa da due giorni sul molo. Il ministro degli esteri, Moussa Koussa, abbandona il Rais e vola a Londra. Gheddafi sfida i leader occidentali, dimettetevi voi. Niente armi NATO ai ribelli. E sul caso Ruby, Milano ha deciso, TV fuori dall'aula. E sul web un finto trailer ironizza sugli italiani alla vigilia del processo più atteso degli ultimi anni. No, non si può andare in giro in volo e mai con il metro, avere un bel conto in banca per rilassarsi un po', comprare 10 case sparse in tutto il mondo. No, no, non si può. Non si può mandare a quel paese chi non è cortese e andare a cena fuori più di una volta al mese e non badare a spese. Non si può, no, a meno che tu non sia il presidente del consiglio o sua figlia o suo figlio. Eccoci qui, caro Parenzo. Barabba! Chi è? Barabba, Barabba, Fabrizio Moro. Che sorprese, uno, Che sorprese, che sorprese. Bellissima questa canzone, numero uno questa qui. Berlusconi aveva già promesso che si sarebbe comprato una casa, però all'Aquila aveva detto cerco casa, via. Ah, vedi. E sto cercando una casa per venire qui durante il mese di agosto e continuare nella direzione dei lavori. Ci tengo troppo a questo risultato, abbiamo preso un impegno assoluto per consegnare le prime case il 15 di settembre e quindi credo che sia... Perché promette sempre che si compra una casa? Perché nella mentalità, nella sua mentalità, promettere a qualcuno mi compro una casa qui significa che poi mi curo di quel posto. Anche se poi ieri a Lampedusa ha detto... Beh sì, poi se poi non mantengo le mie promesse, alla fine la potete imbrattare la casa che compro. Senti, senti. Ho acquistato una casa guardandola solo su internet, in modo tale che ho da un lato garantito agli abitanti di Lampedusa che c'è una presenza per cui potranno anche riversare su questa casa tutto il loro eventuale scontento. Io l'ho detto, no, la potranno... addirittura imbrattare, l'autorizzazione. Poi si è rivolto a un giornalista del Fatto in questo modo, si specchia e si arrabbia. Questa è stata pura disinformazione, come d'abitudine, per il suo giornale. Per il suo giornale. Mi spiace che lei tutte le mattine si guardi nello specchio e quindi si incazzi per tutto il resto della giornata. Così, en passant, en passant. Va bene, va bene. C'è il caso Fini, l'abbiamo già detto. Il nuovo caso Fini di oggi con richieste di dimissioni per aver sospeso a un certo punto il voto, o comunque aver proclamato il voto o la conclusione del voto, e secondo la maggioranza non doveva essere così. Ma c'è il ritorno in grande stile di Annarella, caro Parenzo. Annarella, dov'è? Un po' di parolacce, te lo dico subito, un po' di parolacce davanti alla camera. Ci però, sta, ci sta, però, ci sta in questo contesto. In questo contesto, però, ci sta Annarella, no? La sceneggiata di Lampedusa, Annarella. Ieri il signore è andato a fare la sceneggiata lassù per farsi passare la legge sua. Sono 38 leggi che si fa passare, io un po' di piè. 38 leggi se fa passare quel figlio della mignotta. E inseguiva Di Pietro. E poi vergognati a comprare le ville. Lui è andato laggiù, si è comprata la villa, la gente se può comprare manco una rosetta di 20 centesimi. Se deve solo vergognare di ste cose. A dire le cose se compra le ville se deve solo che vergognare. Non si può andare in giro in volo e mai con il metro, avere un bel conto. C'è tanta roba oggi, c'è tanta roba, tantissima roba, tantissima roba. La cosa migliore è la restaurazione della civiltà cattolica e cristiana di Bacini, resta sempre il top. Sì, questa rimane una cosa. Poi c'è qualcuno all'interno del centro-sinistra che vuole l'Aventino, per esempio il senatore Marino, ma la maggioranza, la stragrande maggioranza, per fortuna non segue questa strada. De Magistris anche la Bindi, no? Anche la Bindi. Beh, no, la Bindi no, la Bindi no, la Bindi no, è un po' più dura, diciamo, sta a metà tra quelli che dicono bisogna fare la battaglia parlamentare in piazza, eccetera, quelli che dicono bisogna addirittura dimettersi per la questione del processo breve. La Bindi dice bisogna fare sì grande battaglia, però l'Aventino no, sta un po' lì, cerca di tenere i piedi in due, no, in due situazioni, in entrambe le fazioni. E De Magistris, la Russa sembrava ubriaco e drogato. Quello è il ministro della difesa che sembrava più tra un drogato e un ubriaco, che costringe la sospensione. Beh, adesso non è una... De Magistris, non aggiungiamo parole forti alla giornata che ha già sembra, vissuto. Di... Insomma, no, esperienza di insomma, è uno scenario francamente non... Poco ortodosso e istituzionale, decisamente. E fare i danni non si può. Che teatrino fantastico, come ci sguazziamo, come campiamo di questo teatrino, caro Parenzo. Questa era la mitica d'amico, mi pare di aver capito. Eh sì, no? Questa qua è d'amico. De Magistris a Exit ieri, Exit, mitica. Era poi imbarazzata, diceva secondo, no, non aggiungiamo altro. Secondo alcuni mitica, secondo me là doveva inzigarlo, istigarlo De Magistris, invece ha detto no, calmati, come calmati, ti sta dicendo una cosa forte, vabbè. Per carità, non voglio dare lezioni a nessuno. E poi andiamo a sentire, direi Rotondi, il mitico Rotondi, lo vorrei sempre ospite, Rotondi che dice sarei onorato di prendere le monetine in testa come fece Craxi. Devo dire che è tanto di cappello, Rotondi. Sarei onorato di prendere le monetine in testa. Posso finire? Posso finire? Il fatto che tu ricordi che le ha prese Craxi, per me quelle sono medaglie. Va bene, allora finiamo. Per me sono medaglie, a me piacciono questi qua, a me piace Rotondi quando dice per me sono medaglie, le monetine che ha prese Craxi sono medaglie. Ma che gli vuoi dire a uno così? Come lo puoi attaccare? Ma no, vabbè, che è contro il politicamente corretto, contro la banalità, contro il mainstream, contro lo scontato, di quelli che pensano che tirare le monetine contro Craxi fosse una cosa giusta, onorevole, fosse una cosa buona, fosse una cosa da lodare. Tirare le monetine a Craxi fu un gesto di rabbia, ma un gesto vergognoso, io l'ho detto più volte, senza dubbio. Però poi adesso questi qui che vogliono fare i Don Chisciotte, no? Che vengono lì. Ma veramente Don Chisciotte Rotondi non mi sembra proprio, comunque. E lì sì, che sfidano la piazza, come dire, gli Zorro della situazione. Comunque sai che Bocchino è diventato più un battutista in realtà ormai? Stai perché a sentire, Berlusconi ha detto che vuole fare il casinò, speriamo che non abbia sbagliato accento. Poi Berlusconi è andato a Lampedusa e ha detto che si è comprato casa per 2 milioni di euro e voglio dire non è quello che va incontro alle esigenze degli italiani, che farà un casino, speriamo a Lampedusa, speriamo che non sbagli con l'accento, che i cittadini di Lampedusa veramente che i cittadini di Lampedusa possono lasci finire poi dopo cittadini, è notabile questo che perché uno chiede scusa, dovrebbe chiedere scusa al presidente Berlusconi per aver detto questo. La Casellati, il sottosegretario Casellati che dice oh devi chiedere vabbè c'è tanta roba da far ascoltare, però parola anche agli ascoltatori, sennò altrimenti che facciamo qui caro Parenzo. Antonio da Verona, buonasera. Buonasera, mi scusi, la saluto intanto dottor Cruciani, saluto sì. Anche non c'è bisogno, ci mandi a quel paese, tanto ormai siamo abituati. No, è la prima volta che chiamo e sono anche un po' felice. Comunque, io volevo intervenire sul Premier, perché secondo me, non so se posso usare questo termine in radio, ma secondo me ormai è diventato un pagliaccio, perché non si può andare lì a raccontarla e a dire io compro la casa, vi metto gli alberi, la faccio diventare una specie di porto fine. Però dire che Berlusconi è un pagliaccio non è una cosa granché originale, sì, non la voglio smontare al suo primo intervento alla Zanzara, però insomma sull'essere clown di Berlusconi hanno scritto tomi interi ormai. A proposito di casa, però, caro Antonio, un attimo solo, poi devo dare la linea alla borsa. Io ripeto quanto ha detto Lombardo oggi, il governatore della Sicilia. Quando siamo tornati a Roma in aereo e siamo passati sopra l'ormai famosa Villa Due Palme, il Premier si è meravigliato che fosse a 50 metri dall'aeroporto, esclamando: ma non lo so, potrebbe essere che, temendo di sentire il rumore dei velivoli, abbia cambiato idea. Questo Lombardo. Abbiamo però la borsa. Antonio, resti con noi. C'è ancora tanta roba. Come lottiamo, caro Parenzo? Come lottiamo? Mamma mia, come lottiamo? Forse abbiamo l'onorevole Napoli sulla vicenda Osby? Della Osby. Sì, perché sai che si è rivolto Maluccio di Rene nei confronti della deputata disabile Ileana Argentin, sì, oggi alla Camera. Sentiremo le sue spiegazioni. No, non si può andare in giro in volo e mai con il metro, avere un bel conto in banca per rilassarsi un po'. E siamo di nuovo qui alla Zanzara, caro Parenzo. Qualcuno mi ha detto: domani voglio andare a fare la spesa con Parenzo al borgo di dove abiti? Ah, vogliono venire a fare la spesa al borgo di Rosia. Al borgo di Rosia. Peccato che domani torno a Roma. E dunque, signor Alessandro, che mi ha chiesto questa cosa, mi dispiace per lei, ma la prossima volta cercherò di accomodare un incontro al supermercato tra lei e Parenzo. A meno che lei non porti però qualche oggetto contundente, allora no. No, è quello. Però non abbiamo criticato abbastanza questa roba della casa, perché veramente è aberrante. Fammelo come non dire. Abbiamo criticato abbastanza? No, cioè, abbiamo ironizzato, però voglio dire una parola definitiva su questa roba della casa di Lampedusa. Perché tu hai fatto, in questa bella trasmissione che fai, che è buona questa trasmissione, funziona, hai fatto sentire, giusto? No, no, è una bella trasmissione. Hai fatto sentire l'audio dell'Aquila. Sì. Ti ricordi che ieri avevamo detto, guarda, sì, che l'aveva bella già bella anche che... questa cosa degli audio, degli sì, audio. No, è una bella idea. È una bella idea, questa fai risentire tutto con la musichetta, è divertente, ma è bello. Però ti dà l'idea del personaggio, capito? Sì. Perché uno che va lì, compra casa e dice di comprare casa, che poi anche all'Aquila non l'ha comprata perché vuole seguire i lavori. Non risulta, non risulta. È una concezione proprietaria della democrazia, è una concezione dal ricco, il ricco che va lì e risolve perché è ricco. Vabbè, ma di cosa ti stupisci? Questo è il punto. Ma come se mi stupisco? Che ma cosa ti stupisce? Ma è 15 anni che è così. È un satrapo. Ma è 15 anni che è così. Ma di che ti stupisci? Ma ridici sopra. Ridici sopra. Di che ti stupisci? Ridi. Ci rido sopra, d'accordo. Ma è una concezione da satrapia proprio, capito? Vabbè, tu devi fare la parte dell'incazzato, quello che si incazza, che si indigna, la satrapia. Mi compro una... È pre-politica, capisci? È medioevo. Medioevo, ecco, eccolo là con la filosofia, con le categorie della scienza della politica, eccetera, eccetera. No, c'è l'altra questione del giornale lanciato alle spalle di Fini. Un deputato, pare una donna, dopo il voto stamattina, sempre sul processo verbale, queste cose noiosissime che succedono solo in Italia, ma ti pare che si debba votare? Adesso una cosa la voglio dire su questo, ma ti pare che la Camera dei Deputati, so che è un rito decennale, debba votare ogni volta sul processo verbale del giorno prima? Ma perché? Questi riti assurdi, dei regolamenti ridicoli, ma in quale Parlamento si vota il processo verbale? La gente non lo sa. Guarda che no, tu hai ragione formalmente, ma da un punto, se volessimo andare a vedere quello che fa la Camera dei Lord, ad esempio, inglese, troveremo dei riti che ci possono sembrare assurdi, ma che sono antichissimi. Sì, appunto, la Camera dei Lord, che non serve assolutamente a nulla. O la Camera dei Comuni. Ma la Camera dei Comuni. Che non serve a un cavolo la Camera dei Lord. Ma no, così eleganti. È bellissimo. Cioè, la democrazia anche dei riti, no? Sì, sì, ma non il processo verbale. Il processo verbale. Comunque, al di là di questo, c'è pochi che sbarcano. Questo parla del processo, è una cosa incredibile. Allora, c'era una deputata del PDL che ha tirato il giornale, un giornale alle spalle di Fini, cioè, ma quale giornale? Questo è tutto. No, un giornale, questo non lo so, questo è importante saperlo, sì. Eravamo con Antonio da Verona. Su, Antonio, concluda. Sì. Volevo dire a Parenzo, al dottor Parenzo, che ha ragione per quanto riguarda il premio, perché vabbè, la satrapia, avanti che... questa cosa, la satrapia. No, per quanto riguarda la casa, lui ha detto che io sono andato ieri sera su internet, ho visto la casa e l'ho comprata. Dal momento in cui uno vede una casa e la compra, sì, c'è da concordare il prezzo, c'è un po' da fare il preliminare, c'è da andare dal notaio per... Vabbè, si è lanciato un po' troppo, ha detto l'ho comprata, in realtà poi avrà fatto un'offerta. Pare che la cosa si sia conclusa, ma non c'è il rogito. Poi forse Berlusconi, sorvolando Lampedusa, ha detto è troppo vicino all'aeroporto, magari c'è rumore, così riferisce Lombardo, forse non l'ha comprata. Vabbè, le solite cose, insomma, di che stiamo parlando? Io non mi meraviglio, ormai non mi meraviglio. Allora, se non si meraviglia, che... rida sopra, ci scriva un trattato sulla satrapia, un altro libro sul satrapo Berlusconi, e chiacchieriamo, e noi chiacchieriamo, avanti, su. va bene. E noi ci indigniamo e chiacchieriamo. E passiamo a Marina da Roma. La ringrazio, Antonio. Marina da Roma. Marina, pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, signora Marina. Dica. Allora, come dicono in Spagna, tu casa mi casa? Tu casa mi casa, sì. Non so, allora, lo dico, può darsi che ha comprato casa per questo, va. Cioè, in che senso, scusi? La sua casa è la casa di tutti. Tu beh, casa, insomma, di è casa. La casa di tutti. Vabbè, non diciamo non che in alcuni casi è stata la casa di no, molte persone. Però... perché il fatto di trasformare Lampedusa come Portofino e comprare casa lì in questo momento un po' particolare mi riportava a quella fatidica frase della rivoluzione francese dove sua maestà il popolo ha fame, dategli brioche, manca il pane, diamo le brioche. Un attimino la similitudine, come posso dire? Beh, insomma, diciamo che Berlusconi non ha promesso solamente il campo da golf, ha promesso un po' tutto, sì, a Lampedusa, cioè un po' tutto, sì, non cioè, solo. In un momento così trovo sempre che sono assurde queste cose, noi che viviamo con i piedi per terra, che tutto il giorno lavoriamo, affrontiamo tante cose, nessuno magari le nota e diamo magari un supporto a perché col nostro lavoro a volte ma non tanto, ho capito che cosa rimprovera che cosa rimprovera Berlusconi, scusi signora Marina, non ho capito. Va bene. Vabbè, ma al di là di quello che lei rimprovera dal punto di vista politico, ma che cos'è? Sono un granellino, però magari nel mio piccolo magari sono una persona che conta, che porta dà un supporto al lavoro, però naturalmente cioè devo sempre dire le stesse cose, ridire su Berlusconi, cioè siamo arrivati a un momento proprio di nausea, ecco. Quello. Va bene, grazie, grazie. No. Non si può andare in giro in volo e mai con il metro, avere un bel conto in banca per rilassarsi un po', comprare 10 case sparse in tutto il mondo, no, no, non si può, non si può. La Carfagna è stata riabilitata prima ancora che le intercettazioni siano uscite, è stata riabilitata da tutta la stampa, da tutte le donne che contano in modo trasversale, dalla Sant'Anchè di AN all'Armeni di Rifondazione Comunista, noi non sappiamo nemmeno che sono queste intercettazioni, è uscito però su un giornale argentino, El Clarín. Te lo ricordi, no? Il comizio di Sabina Guzzanti a Piazza Navona? Sabina Guzzanti, sì. Certo. Te lo ricordi, eh? Dunque, una persona che tra virgolette sputtanò in un comizio i ministri della Repubblica, eccetera, eccetera, giusto? Come ci fu poi l'arrabbiatura del padre di Paolo Guzzanti, che poi la difese, no? Perché ministra la querelò, eccetera, certo. Eccetera. Allora, eccetera. La cosa incredibile è questa splendida intervista di Fabrizio Roncone oggi sul Corriere della Sera, Sabina Guzzanti. Ah, sì. Senti qua. Pronto, signora Guzzanti? Lei risponde, no, dico, come si è permesso di chiamarmi sul cellulare? Lei non deve. Beh, mi spiace, dice Roncone, non me ne frega niente se le dispiace, capito? Ho un ufficio stampa, chiami il mio ufficio stampa, manco fosse il Papa. Beh, non credevo che, non credeva, ma che vuole da me? Beh, mi lasci spiegare, non le ho nemmeno detto buongiorno. Ecco, buongiorno, fatto, allora? Beh, c'è questa storia della truffa, bah, voi sui giornali la state raccontando male, eccetera. Mi ascolti bene, la notizia è che io sono stata truffata, punto e basta. Invece, per assurdo, qui sta passando il concetto che io debba giustificarmi di avere fatto qualche investimento. Pazzesco, non trova? Beh, da giorni lei viene accusata e rimproverata di aver cercato guadagno facile con i trucchi della finanza. Ma lo sa bene anche lei, lo sa bene anche che sui blog scrivono quelli più ossessionati. Te lo ricordi la Guzzanti, no? I blog, certo, la democrazia, certo. Grillo, l'informazione che non esiste, eccetera, eccetera. Giustamente Roncone dice: non offenda quelli che scrivono sui blog. Io non li offendo, ma è esattamente così. Si sono gasati, poverini. Hanno letto certi articoli e si sono messi a pontificare, a dirmi quello che avrei dovuto fare e non fare con i miei soldi. Beh, lei li ha anche definiti svitatelli, persone poco strutturate, esaltati che non hanno capito una scippa. Senta, uno è arrivato a scrivere che i miei soldi avrei dovuto investirli aprendo un bar. Io, la barista. No, dico, si rende conto di qual è il livello della polemica? È giornalismo questo perché avete pubblicato anche le foto degli altri? Solo le mie foto. E giustamente Roncone risponde: beh, signora Guzzanti, è molto gentile a fornirci una lezione di giornalismo, ma non negherà che dovendo scegliere tra una sua foto e quella di uno sconosciuto, forse è più utilizzabile la sua. Beh, certo, lei ha ragione. Questa è Sabina Guzzanti. Detto col massimo rispetto dell'autorità civile, politica, militare e di Paolo Guzzanti, per carità. Però no, bellissimo, il personaggio di Roncone. Personaggio è questo. Il personaggio è esattamente questo: uno la chiama e dice chiami il mio ufficio stampa come se fosse il presidente del consiglio, e poi dice io la barista, mi hanno detto di fare la barista. I, quelli che scrivono sui blog tutti ossessionati, che per carità, per me è vero, però io non ho mai detto che quelli che stanno sui blog, è vero nel senso che ci sono molti ossessionati, però io non ho mai saltato la democrazia dei blog contro i giornali, contro la vecchia politica da distruggere eccetera. Sabina Guzzanti, non mi fate dire altro, non mi fate dire altro. Osvaldo Napoli, buonasera. Buonasera a voi, tutto bene? Che succede, signor Napoli? Che cosa ha fatto la signora Argentin? Che cosa io ha detto? Io non ho fatto letteralmente nulla. Ma scusi... Le chiedo scusa, se andare dal suo, io con lei non ho minimamente nemmeno No, parlato. Con lei no, però ha detto al suo diciamo, certo, aiutante, certo, al suo collaboratore, assistente... Voglio fare una domanda, non conoscere... Come dire, lo stato di salute di una persona è motivo di lesa maestà? Beh, no, ma è arcinoto com'è la signora Argentina. Ascolti, le posso dire una cosa? Mi permetto una cosa? Sì. Non lo sapevo. Quindi vede, ma lo dico con estrema chiarezza, quindi lo dico estremamente sincero, io non ho fatto il connubio fra lo suo stato di salute e il suo assistente. Se questo significa lesa maestà, ho chiesto scusa all'onorevole Argentin, e chiedendole scusa glielo richiedo ancora adesso, ma personalmente chi mi conosce, sì, sa benissimo che io non conosco, perché se Dio vuole sotto un certo aspetto, significa benissimo che io ho fatto il discorso estremamente corretto, perché mi sono rivolto al suo assistente. Sì. Detto questo, ripeto, non conoscendo che lei non avesse se tutti sono arcinoti, io non ero arcinoto. No, però, per carità, lei non ha il dovere di conoscere la situazione sanitaria, la situazione fisica della signora Argentina. Collega, se è vero o non è vero cosa ha detto, ma io ritengo di essere stato estremamente corretto. Allora, ricostruiamo un po' le cose. A un certo punto, l'assistente dell'onorevole Argentin, che non può battere le mani per la sua condizione fisica... Non ci ho mai fatto caso in tutto il tempo che io conosco in Parlamento. Pensi un po' quale interesse avevo a dover guardare il resto qua e là. Mai fatto caso... Lei non ha mai fatto caso al fatto che l'onorevole Argentin... No, mi dispiace doverglielo dire, ci sono 630 parlamentari, come avviene dappertutto, ma lo dico fortemente, lei non va a tutti i 630. Io personalmente, e sfido chiunque a dirmi una cosa diversa, ma lo dico con estrema correttezza, sì, e serietà, io non ci ho mai fatto caso. Mi scusi, ripeto, se non averci mai fatto caso è un motivo di lesa maestà nei confronti di qualcuno, sì, mi assumo la mia lesa maestà, ma abbiate pazienza, pensavo che non fosse così. Allora, onorevole Napoli, perché lei ha rimproverato l'assistente del onorevole Argentin di battere le mani? Perché io ho visto che un esterno potesse battere le mani ad un intervento di un politico non era corretto. Allora, se ho sbagliato in termini... Ho chiesto scusa alla signora, sì, Argentin, ma ripeto, non ho fatto il connubio fra il suo stato di salute e il suo assistente. Lo ripeto ancora no, una volta. No, ho capito, però lei può, ma anche... Scusi, non si è domandato... Ma scusa, adesso Napoli, non vogliamo farle nessun processo, figuriamoci. Però ma il processo perché lo fa mai? Non va dall'altro parlamentare che forse eventualmente... Ma non no, lo so, volevo chiederle... Abbiate pazienza. L'altro, scusi, ma l'altro. Mi ha domandato che cosa ci facesse in aula l'assistente dell'onorevole. Non ce l'ho pensato, mi scusi se glielo dico. Abbia pazienza, motivi ce ne sono 50. Perché uno possa. Ma gli assistenti non entrano in aula in genere, giusto, Napoli? Prego. Gli assistenti, dice Parenzo, non entrano in aula, dunque quello è chiaro che era l'assistente della signora Argentina. Ma l'ho capito, ma le sto dicendo, ma abbiate pazienza, ma guardi, glielo confermo fino a domani. Voi potete metterlo per scherzo, per ridere, sul serio o meno, non ho fatto il connubio, va bene? Questa è la pura verità, abbiate pazienza, e se avete altro motivo, bene, se io devo conoscere di tutti i 630... Però conosceva questo qua, le era ben chiaro che questo qua non fosse un deputato, evidentemente. Ma non ci sono dubbi, perché l'ho visto. Eh beh, ho capito, se lei non conosce gli altri, come faceva a immaginare che quello non fosse un deputato, scusi? Ma abbiate pazienza, mi scusi, lo vedo che non è un deputato. Abbiamo tutta la pazienza, però io che vuole, Napoli, però ascolti, io le chiedo molte scuse, sì, lo ripeto per l'ennesima volta. Cioè, quindi, se mi scuso andare... pubblicamente con l'onorevole Argentin. Io l'ho già detto, gliel'ho detto a lei. Sì. Ci sono stati parlamentari che sono andati da lei a dirle: guarda che Osvaldo Napoli, anche parlamentare della sua parte, di carattere non è così, quindi probabilmente, ed è la pura verità. Se poi qualcuno vuol dire il contrario, è legittimo dire il contrario, contento lui, contento tutti, anzi sotto un certo aspetto sono stato estremamente corretto, perché ripeto, non ho fatto il connubio fra le due cose. Ok, lei però sapeva... le vengo a dire, guarda, fammi un attimo a vedere qualcuno se è vero rispetto a quello che voi mi state dicendo adesso. Ma ascolti, ma io sono lo 0,001. Perché che è successo? Che le hanno detto alla signora Gentile? Allora ce lo vado a vedere, non devo dirlo io. Ho letto che qualcuno ha esclamato falla stare zitta quell'handicappata del cazzo, è così? Non lo so, questo io non l'ho sentito. Se l'ha e cosa ha sentito invece? Cosa ha sentito lei? Lei cosa ha sentito invece? Non lo so, io non l'ho sentito. Beh, lei ci sta dicendo, lei ha ci detto sta dicendo che c'è qualcuno che è stato ben più volgare di lei. Che ho letto quello che avete letto voi, non che qualcuno ha detto. Siccome sono molto attento, siccome sono tutti colleghi e sono anche amici, io non so se l'ha detto o meno. Lei mi sta dicendo una cosa che ha letto nelle agenzie. Sì. Quindi, detto vero, lei ce la può confermare o no questa cosa? Io credo che lui non l'abbia detto. Ma che hanno insultato la signora Argentin? Qualcuno ha insultato la signora Argentin o no? Non glielo so dire, non tocca a me, io non faccio. Ma come non tocca a me? Ho capito. Non faccio il questore, le chiedo scusa, abbia pazienza, io non faccio, né il commesso né il questore. Ho capito, ma lei è un deputato di fronte. E lei pensa che davanti. Non deve mica fare la spia lei. Lei è un deputato che di fronte a insulti gravi nei confronti di una persona disabile. Può dire... Io non li ho fatti gli insulti, quindi ognuno se eventualmente li ha fatti se ne assume le sue responsabilità. Ma infatti le stiamo chiedendo se ha sentito che qualcuno no, le ha fatte. Io non sento, non parlo. Io non ho sentito. Come non vedo, non sento, non parlo. Onorevole Napoli, su queste cose però non è una questione di destra o di sinistra, no, di opposizione. No, le chiedo molte scuse, abbiate pazienza. Se vogliamo scherzare, scherziamo. No, ma non stiamo scherzando qui. In Parlamento, quello che c'è nei tre spicchi diversi fra uno e l'altro, se voi riuscite a sentire quello che dice un deputato a tre spicchi più a destra o a tre spicchi più a sinistra, siete dei superman. No, ma noi vogliamo sapere quello che ha sentito lei accanto, mica ma quello io che non ha ho sentito. Questo è il problema. Ma non io. Tutti quelli della mia parte non hanno sentito. Scusi, però abbia pazienza lei stavolta, io non è che però ascoltate, vi chiedo molte scuse, sì. Però abbia pazienza, il mio comportamento è chiaro. Vabbè, ma infatti abbiamo chiarito il suo voi, no, ma noi abbiamo onorevole lavoro. Napoli, noi andate abbiamo a sentire direttamente la persona, sì, non ascoltate sì me. No, certo, io le sto dicendo, abbiamo chiarito quello che è successo tra lei, l'assistente, la signora Gentin e la signora Gentin. Questo no, è perché... no, la signora Gentin non è... vabbè, l'assistente nel poi cose, sia preciso nel cose, io con l'onorevole Argentin non ho avuto nemmeno una parola sola, d'accordo, con l'assistente onorevole Argentini, d'accordo. Benissimo. Abbiamo capito, accennato. Lei si è avvicinato, ha detto che le ha detto, che ha detto esattamente a questo signore? Gli ho detto, mi pare che gli ho detto, lei non può battere le mani, punto e basta. E lui come ha risposto? Niente, è rimasto lì e basta. E dopo c'è stato l'intervento in aula della signora Argentini. Benissimo, perfetto, d'accordo. tutto lì. Dopodiché è stato lei a dirci rispetto a quello che ho fatto io, gli altri hanno fatto anche di peggio, non è che l'ho detto io. No, io ho detto che rispetto, stando a quello che leggo, abbia pazienza, però mi scusi, io non entro in merito agli altri colleghi, non tocca a me. Vabbè, non vuole entrare nel merito. Io, come tutti noi che eravamo in quella, non possiamo aver sentito quanto eventualmente qualcun altro. Però scusi, pare che la signora Argentina abbia rifiutato le scuse che lei ha No, apporto. Io gliel'ho detto davanti a tutti, abbia pazienza, in transatlantico, e posso fare nomi, cognomi, tutto quanto il resto. Però ascolti, se le accettate, bene, se non le accettate non posso farci nulla. Le ripeto, io ho la coscienza a posto, è estremamente corretto. Dunque, prima mi ha fatto arrivare un bigliettino, racconta la parlamentare, questo sempre l'agenzia. Esatto. C'era scritto su sto bigliettino? Se si può sapere. C'era scritto che le chiedevo scusa, dico, perché non quello che gli ho detto a lei. Però io non l'ho neanche aperto, dice lei. Poi è arrivato lui di persona a chiedere scusa. Invece da Polledri neanche una parola. E Polledri pare che sia quello che ha detto quella frase. La pare, non poi so. Lui smentisce. Infatti io confermo come lo dice lei. Io non so se è vero, pare. Io non ci credo che l'abbia detto, però stando a quello pare. Senta una cosa, onorevole Napoli, ma... Quindi mi fa piacere che in tutti i casi l'onorevole Gentil dice che io gli ho chiesto scusa. Quindi, No, questo lo dice, lei lo conferma, poi ho chiesto scusa. Però e poi... ascolti, adesso io sono in autostrada. Sì. Mi avete fatto togliere viva voce, ho alcuni problemi. No, adesso la lasciamo lì, un minuto la lasciamo libero. Un'altra cosa, nella bagarra di ieri tra Fini e La Russa, chi ha ragione secondo lei? Beh, io credo in tutti i casi quella di ieri non sia stata una giornata esaltante delle istituzioni. Su La Russa ha esagerato? Credo che La Russa abbia certamente esagerato. Probabilmente il momento... Dunque l'ha mandato a quel paese? Il Vaffa c'è stato? Ascolti, io non guardavo La Russa in quel momento, quindi non glielo so. Ma lei sta in aula, però non sente, non vedo, non sento, non ascolto, non succede. Ma le chiedo molte scuse, ma lei mi scusi. No, guardi, è curiosa questa cosa. Ascolti, posso dire una cosa? Non è curiosa. Mentre parlava La Russa, Russa si è voltato verso... Sì, è vero, questo è vero. Questo è vero. Allora abbia pazienza, vedete, io capisco che voi fate del giornalismo, guardi, sono iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti dal 1969. Detto questo, però, capisco che voi provocate. scusate, ed è giusto, io sto allo scherzo sotto un certo aspetto, però vede, io non posso girare attorno al resto e andare dal posto di Fini e vedere se lui ha detto a Fini. No, ma io glielo chiedo, abbia lei... pazienza, abbia pazienza Napoli, no, abbia pazienza un attimo, possibile che ogni volta che succede qualcosa, ma io non l'ho visto, ma nessuno vede mai niente, ma è possibile, non lei solo, mi scusi Parenzo, io capisco che tu abbia... No, magari gliel'hanno riferito, magari onorevole Napoli, qualcuno gliel'ha riferito, sì è vero, la Russa ha mandato a quel paese... Lo dicono tutti, quindi mi scusi. Dunque sarà vero, e poi lei stesso ha detto ha esagerato, però... Fini, qualche responsabilità ce l'ha in quello che è successo ieri o no? No, in quello di oggi sì, in quello di ieri no. Quello di oggi sì, c'è nel senso di aver... Però ascolti, vi devo lasciare perché ascoltate veramente su un'altra strada. Ma chi ha tirato il giornale? Il giornale no. Chi l'ha tirato? Ascolti, in quel momento lì non c'ero nell'aula, ma ero esattamente dall'altra parte, quindi mi... Non è, beh, se le, io non so veramente, ma posso dire sul problema del giornale. Sì. Sono 10 nomi che circolano, sì. Quindi lei pensi un pochino, ma la cosa ognuno se ne assume le una sue donna? Sembra una donna. Non so dire, ascolti, ognuno se ne assume le sue responsabilità. Sì. Le responsabilità sono singole. Le responsabilità sono singole, su questo non c'è dubbio. Vabbè, onorevole Napoli, la prossima volta è così, anche per darci una mano a noi, questo lo dico per scherzo, cerchi di vedere un po' meglio perché sia ieri... No, ma ascolti, io attentamente, ascolti, di abitudine vedo molto molto bene, appunto, però vede, dico. Bisogna anche parlare e bisogna anche, sotto un certo punto, come dire... vede, un giornalista, un grande giornalista sportivo di tanti anni fa, dove io scrivevo, Alfredo Tognolo, lei non lo conoscerà sicuramente. No, lo conosco, disse, di fama. Diciamo. Mi disse un giorno, disse ad alcuni noi apprendisti giornalisti, sì, che disse? Prima di scrivere un nome su un giornale, fate attenzione, perché quel nome, se lo diffamate, è rovinato per molti anni. Mm. Allora, io prima di dire un qualcosa che non posso essere sicuro di dire, faccio molta attenzione, certo, lo d'accordo. Dico quando sono... Però voglio dire... È vero che il giornalismo è cambiato, perché, sai, su tutti i giornali ci si va con una facilità estrema, anche per quanto riguarda intercettazioni così personali. Quindi vengo a dire, io parlo, e chi mi conosce sa benissimo, nel momento in cui ho la certezza di poter essere sicuro di quello che ho visto, di quello che ho sentito, non di quello che eventualmente... Però, onorevole Napoli, lei dice non sapevo che onorevole Argentin fosse lo confermo totalmente, cioè lei sapeva che era disabile, lo sapeva che è disabile, no? Sotto un certo aspetto è un fatto positivo perché non ho fatto il connubio, certo, mi permetta se glielo dico, ma lei lo sapeva che è disabile, sì. Beh certo, cioè, no, almeno questo dico. Però infatti, no, però... mi permetta, io da quel lato lì sono profondamente rispettoso. Però non sapeva che non poteva applaudire, giusto? No, non ci ho pensato né minimamente. Mi permetta se no, dico, per carità, dico... ma no, mi permetta, io non è che sto qua a contestarle proprio tutto, ogni tanto contestiamo qualcosa. Grazie, la lascio libero sull'autostrada, Dove sta andando, onorevole Napoli? Prego? Dove sta andando? A casa mia. In Piemonte, no? Giusto? Certo. Grazie però. Grazie. Chiamatemi quando volete. Caro Parenzo. Ma abbia pazienza. La pazienza che vuole Napoli, però. Abbia pazienza. Eh sì, noi abbiamo pazienza, però, insomma, no? Ma non ho visto, però è bravo, dai, Napoli, è simpatico. Anche sì, Napoli. È simpatico, ma... Gli do la buona fede, non sapevo, evidentemente, conoscendolo, non... No, io dubito davvero che l'onorevole Napoli si sia rivolto in quel modo sapendo che l'onorevole Argentin non poteva applaudire, per carità. Però, insomma, però perché andare da una parte all'altra dell'emiciclo per rimproverare uno perché applaudiva? Insomma, mi sembra anche sì, questo. Sì, quello è un po' il fanatismo che scatta in quei momenti di bollore della Camera dei Deputati, no? Il bollore. Marco da Milano, buonasera. Oh, finalmente. Buonasera, mi sentite? Sì, dica. Oh, buonasera, dunque, trasmissione eccezionale, fantastici tutti e due, lei e il dottor Parenzo, azzeccatissima la trasmissione, però le chiedo, mi posso incastrare? Ma lei può fare quello che vuole. Oh, perfetto. Allora, io vorrei capire una cosa, adesso, rido perché mi viene da ridere, se a Lampedusa gli emigrati sono portati via, vanno via, a cosa ci attacchiamo? Che senso, una domanda, scusa? A lei e anche al dottor Parenzo. Che senso? E nel senso che se Berlusconi mantiene questa promessa, che mi sembra la più importante, al di là del piano colore, al di là delle altre cose, cioè dove poi ci attacchiamo? Cioè, io mi sembra di capire che, cioè, quello che non capisco, francamente, è un pochino di par condicio, un pochino di differenza. Cioè, non sempre, è possibile che tutto quello che fa Berlusconi è sbagliato? No, ma chi dice che è sbagliato? Mi scusi, Marco, mi scusi. Nessuno dice che è sbagliato. Sto dicendo semplicemente che andare lì e promettere, diciamo, dall'acquisto della casa fino al, al casinò, al campo da golf, questo mi sembra francamente un po' esagerato. Però ripeto, noi siamo dei profani dal punto di vista della comunicazione, magari ha ragione lui, e invece questa cosa qui è una cosa, è tutto realizzabile, è tutto fattibile. No, in fatto di comunicazione voi siete dei maestri, lei è un genio. Sì, però Marco, adesso lasciamo perdere i complimenti. Il punto fondamentale è che io non lo so, io non ho pregiudizi nei confronti di Berlusconi. È chiaro che uno show come quello di ieri fa un po' sorridere, fa ridere in una situazione così drammatica. Berlusconi arriva lì sorridendo. Lampedusa che vive esclusivamente sul turismo, ha ragione l'ascoltatrice che ha parlato e dunque ieri, vive di turismo, allora? E allora ha dato una speranza a questi. Ho capito, ma non è che ci volevano 4.000 immigrati, alcune cose si potevano fare anche prima, allora non è che ci vogliono 4.000 immigrati per promettere mari e monti a Lampedusa. Io sono convinto di una cosa, me la concedo, se domani mattina Berlusconi dovesse per sbaglio camminare sulle acque, sì, verrebbe citato perché ha violato il copyright di Gesù Cristo. Cioè, veramente è una cosa allucinante, cioè la caccia a piccione, è una cosa pazzesca. Cioè veramente, no, io ma non è caccia al piccione, cosa, è che... mi faccia finire, sai la cosa brutta? Purtroppo Berlusconi, uno dei tanti difetti che ha, è che si allea con deficienti come Comici Nipoti, e che purtroppo gente come Parenzo sta dall'altra parte, è quello che il dramma. È un paradosso. Perché dove dovrebbe stare Parenzo? Ma io dove sto? Ma Parenzo è troppo intelligente, Parenzo è un uomo di cultura, francamente, e le sue punzecchiature sono comunque punzecchiature intelligenti, cioè è uno che sa quello che dice, non è uno stupido. E dunque si dovrebbe alleare a Berlusconi, dice. No, lo dico questo, ognuno c'ha le sue idee, però è un peccato vedere gente di quel calibro da una parte e invece deficienti come Cilipoti che devono stare lì con Berlusconi, e questa è la cosa, il dramma. Io sono di destra, evidente, cioè però intorno a Berlusconi troppi imbecilli. No, troppi imbecilli, sono convinto che ha troppi imbecilli intorno. Vabbè, però non è un caso, io anch'io sono convinto che intorno ci sia gente, come dire, dal punto di vista politico abbastanza scarsa, però magari non è un caso, caro Marco. grazie a voi, Sergio, ragazzi, ci chiama da Bari, buonasera. Un'altra cosa che non capisco, a proposito di Bari della Puglia, me l'ha fatta venire in mente questa telefonata, è al di là delle questioni che riguardano le promesse eccetera, le dimissioni del sottosegretario Mantovano, ma possibile, oggi leggevo un articolo di Marco Mariso sul Corriere della Sera, possibile che non ci sia un paese, poi tutti quanti a parole, spesso i comuni di sinistra o le regioni di sinistra si dicono naturalmente disponibili ad accogliere gli immigrati eccetera, possibile che non ci sia un sindaco di un paese che dica sì, va bene, possono venire da noi 500, 600, 700, 800 tunisini, esatto, quelli che sono. Non ce n'è uno, per una con una scusa o con un'altra, accampando promesse che magari sono state fatte naturalmente in maniera improvvida, cioè non faremo entrare mai nessuno, non ospiteremo più nessuno, tutti quanti dicono no, da noi no. Sindaco di Pisa dice no, questa tendopoli per 400 persone. È una vergogna, infatti, un atteggiamento, cioè, perché sbagliato. Poi a parole sono tutti bravi, no? Beh, sì, certo, dobbiamo accogliere, cioè, soprattutto le regioni e i comuni di sinistra. Poi nei fatti non è così. E vabbè. Chi c'è? Sergio, sì, Sergio. Sì. Pronto, Sergio, buonasera. Dica. Sì, io telefonavo per quanto riguarda Napoli, ma per quanto riguarda... Napoli? Che è successo a Napoli? Napoli come città. No, nel senso che siccome sentendo le promesse del Presidente del Consiglio sulla Lampedusa, campi da golf, casinò e via dicendo, tutto quello che deve fare a Lampedusa, sottolineo soltanto che oggi c'era da vergognarsi a Napoli, zona stazione, per le tonnellate di immondizia che sono per strada a Napoli. Cioè, che è una cosa da vergognarsi rispetto ai poveri immigrati che erano lì. Cioè, quindi noi stiamo ospitando dei... Pronto? Sì, la sento. E stiamo ospitando degli immigrati, c'erano degli africani, degli sudamericani per strada che erano nella zona stazione di Napoli. Mi vergognavo ad immaginare il mio capo tra 15 giorni per una multinazionale tedesca che deve venire giù a Napoli. Non so il modo di, in che modo presentare una città come Napoli, che è una cosa invivibile, tra case abusive, immondizia per le strade, e noi stiamo pensando di Lampedusa, cioè con delle situazioni che sono di grado assoluto, animali morti lì nella zona dove ero io, nella zona vicino alla stazione, delle cose indecenti, cassonetti bruciati, e poi dopo ci preoccupiamo di Lampedusa. Sì, e non credo che le elezioni, per carità, certamente l'amministrazione della Iervolino è sotto gli occhi di tutti, e non credo che le elezioni risolveranno qualcosa. Purtroppo la questione lì a Napoli, francamente, secondo me è irrisolvibile, se non con una rivoluzione totale anche dal punto di vista culturale, certo, civile, tutto. Però scusami, su sì, Napoli, dimmi, dico solo una cosa: come mai si parlava, quando Bassolino era governatore della regione, sì, prima sindaco di Napoli, poi governatore della regione, la responsabilità era del ticket Iervolino-Bassolino, e ora Caldoro, governatore della regione, è scomparso. Beh, da un anno, da un anno, governatore. Da un anno, ma non se ne parla più. No, beh, da un anno. È da un anno, adesso, fra poco qualcuno se la prenderà pure con Caldoro se non è cambiato qualcosa. Sì, sì, lascia passare qualche. Il ticket di responsabilità, e Bassolino ha avuto o di irresponsabilità, era Bassolino. Era quel ticket lì. Ora è solo la Iervolino. Beh, adesso c'è da un anno c'è il ticket Iervolino Caldoro. C'è Caldoro. Vabbè, lasciamo. E nessuno lo chiama in causa. Caldoro. Diamo tempo al tempo. Diamo tempo al tempo. Per carità. E andiamo a sentire i titoli della 7. Lampedusa, giornata di sgomberi e tensioni, trasferiti oltre 2500 migranti, nonostante le cattive condizioni del mare, ma altri ne arrivano, intanto la Francia punta i piedi, gli immigrati rimandateli a casa senza farli passare per il nostro paese. Eh no, sugli immigrati serve l'aiuto di tutti, dice il ministro Maroni, rivolto soprattutto alle regioni per le quali l'accordo col governo riguarda solo i profughi, non i clandestini. Lunedì Berlusconi va a Tunisi, polemiche sulle dimissioni di Mantovano, con un Bossi che dice peggio per lui. Ma se in Libia continua la controffensiva delle forze leali a Gheddafi, nonostante i raid aerei degli alleati, la situazione diverge da quella politica. Il Reis viene abbandonato dai suoi fedelissimi, due uomini chiave del regime in 24 ore. Grida, insulti, lancio di giornali, tesserini parlamentari, così stamattina alla Camera dopo la bagarre di ieri con lo scontro tra la Russa e Fini, e intanto il processo breve, proprio per quel che è successo, slitta alla prossima settimana. Ritira la querela contro Ruby, la ragazza che subì il furto di 3.000 euro da parte della giovane marocchina. Per quel furto Ruby fu denunciata e portata in questura. Era il 27 maggio del 2010, così iniziò il Ruby Gate. Livorno, pacco bomba alla caserma della Folgore. Un atto gravissimo. Ferito il capo di Stato Maggiore della Brigata. Ha già subito l'amputazione di tre dita, poco fa la rivendicazione anarco-insurrezionalista. Bene, bene, bene. Adesso, Parenzo, stai calmo, eh. Non cominciate subito a litigare, perché sennò veramente diventa un inferno questa trasmissione. No. Perché, sì, c'è in collegamento uno dei miei politici preferiti, lo posso dire? Io ho grande rispetto, non lo dico ironicamente, ho grande rispetto, grande stima, devo dire anche una persona che trovo vera, ecco, vera. Ma non, veramente non lo dico ironicamente, una persona che trovo vera anche nelle sue contraddizioni, nei suoi cambiamenti, eccetera. È diventato un amico della Zanzara, però voi non litigate subito almeno, perché altrimenti finisce tutto in banca. Lo so. Onorevole Scilipoti, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Però salutatevi almeno, no? Buonasera, signor Parenzo. Buonasera, Scili. Ma ecco subito Scili. Ma perché Scili? Perché Scili? Ha ragione lui, no, allora. Ha ragione. Perché Scili? Perché è più bello Scili. Scilipoti. Scili è più bello, più corto. Scili. Non potrebbe essere più bello. Però scusi, è più bello perché è più scattante, perché è veloce, come i suoi cambiamenti. Ho detto che sono intelligente, dico, poteva anche andare, però dico che sono bello. Non è vero, perciò non no, è più bello Scili, è più veloce, è scattante come i suoi cambi di casacca. Scili! Ah sì, va, perfetto, hai visto quante cose intelligenti che dice. Ecco, subito così. No, io appunto ho detto, Perenzio. Ho fatto della premessa, però lei Scilipoti, siccome ci sono state delle polemiche quando lei l'ultima volta è venuto qua per quella frase che ha detto, direi, gli devo dire, nonostante la simpatia che ho per lei, sgradevole nei confronti di Parenzo sul parto anale, devo dire la verità. Beh, lui è un aborto politico. No, cui... vabbè, adesso non ricominciamo. Io avevo intenzione di scusarmi, invece lui che cosa ha fatto? Non ha fatto subito, altro subito che continuare... così. Si voleva scusare. No! È come quello che vuole litigare per forza, dice di no, io se c'è io un momento di riflessione, se c'è un momento per trovare i margini per la comporre e un infatti, po' e fare una riflessione seria nell'interesse degli italiani, lui che cosa fa? Serissimo. Ricomincia da capo e incomincia ad offendere. perché che cosa dice? Non dobbiamo parlare di cose serie, ma dobbiamo parlare solo, scusi l'espressione, virgolettando questa parola, di scemenze. Cazzate anche si può dire, ci ripoti tranquillamente. Cazzate si può dire? Sì, si può dire qui la zanzara, si può dire. Allora, però adesso cerchiamo di ricomporre questa frattura. Ci ripoti, anche se indirettamente si è scusato per quella frase dell'altro giorno. Va bene. Parenzo accetta tranquillamente. Sì, scusi, aborto politico pure è brutto, aborto politico, quello che sì, aborto detto, politico è brutto. Dunque, togliamo le frasi brutte. Lui non si scusa, visto? Lui non si scusa. Mi scuso anch'io per aver dato dell'aborto politico. Benissimo, siamo a posto. Vabbè, allora, siamo è uno statista, il più grande statista del secolo. Ecco, la ironia. Ho visto che è gentile. Pubblicità e torniamo subito. Scilipoti, si prepari a descriverci la sigla, perché ci sarà un giorno importante la settimana prossima, il 5, credo. Quando verrà presentato, il nuovo simbolo del partito che non so come si chiamerà, Iniziativa Responsabile o Responsabili, che ricorda un segno di quale religione, di quale filosofia, non mi ricordo. Almeno così ho visto, magari non è quello. Non ci sarà nessuna. Allora, lei sta confondendo, mi dispiace. Lo so. Facciamo un po' di confusione, dico, ma è legittima. C'è il Movimento di Responsabilità Nazionale, sì? Che porta un simbolo importante, che è il simbolo dell'equilibrio, il simbolo dello yin e dello yang all'interno di questo simbolo, che è il Movimento di Responsabilità Nazionale, che è cosa diversa da Iniziativa Responsabile. Iniziativa Responsabile all'interno del Parlamento rappresenta un gruppo di diverse, c'è cioè una pluralità di vedute, questo l'abbiamo capito, politico, e ci sono i gruppi del PID, poi c'è dentro anche Movimento per il Sud, poi ci sono altre due o tre realtà, e insieme ci siamo anche noi come MRN. MR, movimento che nasce il 9 di dicembre alla Camera con una conferenza stampa. Dove sabato ci sarà il congresso regionale in Sicilia, e speriamo lo sappiamo. Che ci sia. Sicuramente ci saranno i punti di riferimento nostri regionali, e poi andremo a fare dei congressi in tutta Italia e nelle varie regioni d'Italia. E martedì prossimo che succede? Che si dovrà fare a giugno. E a giugno che responsabilità e questo si chiama Movimento di Responsabilità Nazionale, il simbolo che è diversa da Iniziativa Responsabile. Benissimo, abbiamo chiarito. Diverso. Dopo ci racconta questa storia del Yin e Yang. Io sono un po' ignorante da questo punto di vista. Beh, siamo qui in collegamento con il Granducato di Toscana, dove c'è David Parenzo e con Domenico Scilipoti di Iniziativa Responsabile, il quale ci stava spiegando che verrà presentato a breve. Che c'è, Domenico Scilipoti? Che è successo? No, sei stato tu, Parenzo? Sì, perché adesso io stavo cercando. Prego, Parenzo. Scusami, Cili, perché adesso l'idea che lei ci descriva lo yin e lo yang. No, lo yin e lo yang, però. Che equilibrio, Parenzo? Yin e yang. Mi viene da piangere quasi. Creano dei danni. E se noi all'interno del Parlamento riuscissimo molte volte, anche nella dialettica più aspra, a trovare l'equilibrio e a parlare per ore sui problemi della gente e sui problemi che affliggono il nostro paese, le nostre famiglie, sicuramente faremmo qualcosa di più utile, più concreto, nell'interesse anche della sua famiglia. Queste cose lei difficilmente li capisce, perché ritiene che dovremmo parlare di altri argomenti o di argomenti futili. No, io non vedere chi nulla. Chi ha più forza nel gridare o chi ha più forza nel dire banalità e stupidaggini per essere presenti il più possibile sui quotidiani. Questa è una sua mentalità che è diversa dalla mia. Non è una mentalità, mi viene da latte alle ginocchia, viene in modo particolare l'essere vivente, che è cosa ben difficile che lei possa comprendere. Però qualche volta che avremo più possibilità, cioè più tempo disponibile, io lentamente, progressivamente cercherò di spiegarglielo e far sì che anche lei possa capire che cosa significa rispettare gli altri, in modo particolare l'essere vivente, che sono due cose che sembrano uguali ma non lo sono. Scusi un attimo, ritornando allo yin e allo yang, l'equilibrio è la cosa più importante. L'equilibrio dovrebbe essere l'equilibrio dovrebbe essere il nostro punto di riferimento. I colori quali sono? Il verde e il rosso, se non sbaglio, no? Il verde, il rosso e il bianco l'abbiamo messo per un altro motivo, perché rappresenta qualcosa di importante per la nostra Italia e per la nostra patria. Invece del nero e del bianco. Sono il rosso e il nero. Infatti normalmente il rosso e il nero, invece no, il bianco e il nero normalmente. Per lo yin e lo yang, il bianco e il nero, no? Si può usare anche il bianco e il nero, si può usare il rosso e il nero. E invece voi usate il bianco, rosso e verde. Noi abbiamo utilizzato il verde, il rosso e quella. Però sembra un movimento, sembra un simbolo di un movimento, no, Parenzo? Lo yin e lo yang. Che ma si usava... è un simbolino, lo yin e lo yang all'interno del simbolo è così piccolo, è piccolo, ma è importante. Certo. No, ma è un po' una cosa un po' naif, giusto, Parenzo? Una cosa un po' naif, quasi da fricchettoni, direi. Ma no? Naif, è una cosa. cosa trash, una roba da Firenze. Non riesco a capire questa sua definizione, se riuscite a spiegarmela in termini più popolari e comprensibili, non soltanto per me. Spazzatura, in inglese, cioè, si trash vuol dire spazzatura. Di quello che voi, o che, di quello che vuole dire, e che vuole dire Parenzo, di quello che vuole dire lei. Parenzo. No, ma io quando dico, scusi, Scilipoti, quando dico naif, non dico che è una cosa sbagliata, dico semplicemente che siccome è la prima volta che un partito politico presente in Parlamento, addirittura nella maggioranza. Noi abbiamo condiviso un programma. No, ma abbiamo capito, adesso non entriamo nei dettagli. L'iniziativa responsabile in questo momento si posiziona non in una maggioranza, che significa condivisione di un programma. No, ma ho capito. Sì, vabbè, maggioranza, insomma, adesso non stiamo a sottilizzare. Nella maggioranza. Che ha un simbolo che a me ricorda i fricchettoni degli anni 70, ma insomma, va benissimo. A me quello ricorda, la prima cosa che mi viene in mente è quella lì. Allora, è curioso, no? Lei dice l'equilibrio, no? Voi volete portare... A me ricorda invece tutt'altra cosa, ricorda un pensiero che fa parte di un mondo, che vede il mondo leggermente diverso da come lo vedono molti dei miei colleghi, che si occupano solo di quello che è la cultura cartesiana, e noi invece pensiamo anche con un altro... Cioè cerchiamo di aggiungere qualcosa a questo mondo cartesiano che si chiama mondo dell'olismo, e abbiamo cercato di farlo capire attraverso un simbolo per diventare immediatamente individuabili, attraverso questo simbolo far capire che anche in politica, cioè dire, il pensiero anche nella politica dovrebbe modificarsi, cioè integrare dal cartesianesimo, dal cartesianesimo all'olismo. Non ho detto questo, ho detto che io ho detto che per quanto riguarda la visione cartesiana dovrebbe essere integrata anche dal mondo dell'olismo, dalla visione olistica, che è cosa diversa. Ma scusi, cosa c'entra questo col processo breve? Ma no, questo che c'entra il processo breve? Ma che c'entra poi? Ma lei veramente non riesce a capire? Scusi, a però io potrebbe vedere anche un futuro diverso sotto il profilo politico. Certo, e di politica, e tu ti occupi del processo breve, Parenzo, e del paese, e tu ti occupi del processo, non soltanto ed esclusivamente quella logica che ha lei, solo ed esclusivamente come creare problemi a coloro i quali stanno parlando di argomenti seri. Capito, lascia perdere, scusa. Ma parliamo di cose serie. Aspetta, c'è il traffico, un attimo, poi torno perché è importante questa cosa qua. Volevo capire se questa cosa dell'olismo è una cosa che i suoi amici di partito però sanno, perché mi sembra gente un po' pratica, cioè Cesario e Calearo, gente molto, come dire, che non è che fa grandi voli pindarici. Lei invece è uno studioso di queste cose, anche per l'acupuntura e per altre cose, per cui volevo capire se tutti sono a conoscenza di questi passaggi importanti, perché se uno non conosce l'idea che uno poi va ad attuare concretamente in Parlamento, mi sa che non ci sono le basi. Vabbè, leggo oggi però un articolo. Dottore, dico, per completare la mia, il mio ragionamento, prego. Che significa? Cioè, quando io parlo di cose serie, cioè dire, diciamo, cose serie all'interno di questo che noi abbiamo messo, all'interno di questo simbolo che noi abbiamo, e parlare un linguaggio sotto il profilo che diventa difficile per Parenzo capire, che è il mondo dell'olismo, significa avere una farmaceutica diversa di quella che abbiamo oggi. Una farmacia? Significa parlare di galenico, e lui non sa di che cosa stiamo parlando. Significa parlare di criticità bancarie, significa di parlare anche di possibilità di dare un maggiore sviluppo a tutto quello che è l'agricoltura biologica, significa parlare e incentivare tutto quello che è l'alternativa al nucleare, ma siccome lui non riesce a percepire questo linguaggio, che per lui la politica è soltanto faccio presente che Berlusconi di processo breve e di chi è che parla dalla mattina alla sera per insultare agli altri. Gli italiani sono olismo. Gli italiani hanno bisogno di parlamentari che all'interno del Parlamento si occupano di problemi reali della gente e che diano risposte, e non di politici che parlano nel politichese e non riescono a capirsi né loro e ne fanno capire che cosa dicono, perché perdere 6 ore per non parlare di niente, però, significa questo sia da parte di coloro i quali sono in maggioranza, sia da parte di coloro i quali debbono fare un'opposizione, all'interno del paese, per avere un progetto credibile in alternativa, però, nell'interesse del paese. Scilipoti, questo significa. Sì, scusi un attimo. Non mi voglio perdere in questa confusione, voglio parlare il linguaggio dell'equilibrio e voglio confrontare i sistemi specifici per realizzare qualcosa di concreto. Non solo per i miei figli, ma anche per i figli di Parenzo. Ma non ai miei figli ci penso io, per carità di Dio. Ma ci devi pensare tu ti devi ricoverare. Anzi, devi internarti. Ma come? Avevate fatto pace? Ma deve ricoverarsi, no, fermo. E la difficoltà è trovare pure uno spazio dove devono metterlo, perché anche là potrebbe creare dei danni irreversibili nei confronti dei figli, dei propri figli, non dei figli degli altri. Ma lasciate stare i figli, ma che dice? Ma che dice? Che dice? Ai nipoti, alle cugine e a tutti gli altri. Cosa fa i nipoti e le cugine, scusi? Ah, non lo so, questo glielo chiedo a lui perché non conosco... Poverino, ascolti, invece di dire minchiate, olismo, in, yang... Ma se tu non conosci nemmeno la parola olismo, che cosa significa? Ma significa, è una parola che deriva dal greco, matricio classico, che sei un cartesiano marcio nell'anima, nella testa e nel midollo, che non riesci a vedere un palmo dal tuo naso, che hai visto soltanto la logica del profitto e del dio denaro, e ti parlo un linguaggio diverso, non lo potrai mai capire, perché sei un mediocre, questo sei un mediocre, sei quando un cartesiano ma nel senso più cattivo della parola, sei un mediocre e un servo del potere e dell'economia del profitto, ma sei della tua tasca, ma lei, ma guardi che lo stato di ubriachezza, ma stai pericolosissimo, tu non ti sai nemmeno ubriacare, perché bevi il vino al metanolo, perché non sai la differenza fra il vino di derivazione di natura biologica con quello del derivato al metanolo, e ma quando c'è qualcuno che ti vuole difendere sei così stupido da non capirlo, hai capito? Io penso che guarda, stai zitto, non parlare, dici delle sciocchezze, vai a informarti prima di parlare di argomenti seri, lei, e molto più seri di quello che tu pensi giornalmente. Lei ormai è certificato e completamente zitto, perché non sai di che cosa parli. Perché un parlamentare come Scilipoti vuole difendere te e la tua famiglia? Ma non ci pensi, non lo puoi capire, perché sei un medico. La mia famiglia ci penso io, sciocco della politica, sciocca. Sei uno che parla il linguaggio dei tuoi similari, il politichese, che non gli interessa risolvere problemi per la gente, ma gli interessa soltanto apparire e avere un profilo economico. Sei un mediocre come tutti gli altri e vi combatteremo, faremo in modo che queste persone, cioè persone come te, lentamente e progressivamente dovranno scomparire dalla scena politica. Eccolo qua, ma che scena politica? È la vergogna della politica italiana. Ascoltami, teorema di Pitagora, lista, Yin e Yang, ascoltami a me, dimmi una cosa. Aspetta, Parenzo. Quella gente che per 30 anni è stata all'interno del Parlamento e ha dato indicazioni di guida per il Paese, che hanno scelto delle persone come te tramite non la meritocrazia, ma la partitocrazia che noi vogliamo eliminare. Togliete il vino, perché ogni minuto con te è un minuto perso, ma io spero, perché sono uno che parla un linguaggio di amore anche nei confronti non sembrava, di quali sono proprio intelligenti come te, che allargo le braccia e farò delle battaglie anche per convincere te con grande difficoltà che uomini come Scilipoti ed altri all'interno del Parlamento vogliono e tentano di fare una battaglia in buona fede per cercare di risolvere i problemi degli italiani. Ciao Palenzio! Aspetta, buonasera signor Cruciani! No, non è lo Scilipoti, perché se ne va così? Fa i suoi comizi, capito? Le sue sparate, olismo, Yin e Yang, mi ha dato del demente. No, ma io sono l'amore, io voglio l'equilibrio. L'equilibrio, rimanda questa roba qui, l'equilibrio, il partito dell'equilibrio, ma vergogna, il partito dell'equilibrio di Scilipoti. Che cosa voterà alla Camera martedì sul processo breve? Olista, cosa voti sul processo breve? Richiama Cruciani, se hai coraggio, dimmi cosa voti sul processo breve. Olista, teorema di Pitagora. Adesso lo richiamo, aspetta, non ce la faccio più, perché non riuscivo a reagire, capito? Il problema è questo. Giustamente le persone mi scrivono, dice si sente che ridi, ma che devo fare? Cioè, è una qualcosa di pazzesco. Richiama Scilipoti, spiegaci cosa voterai martedì. Scilipoti, però non breve. È che uno può fare il comizio sull'olismo, per carità, va bene tutto, sul Yin e Yang, attaccare Parenzo in questo modo e poi buttare giù il telefono, perché non ci siamo qui. Io ho iniziato questa conversazione cercando di trovare un accordo con estrema calma, con pacatezza, eccetera, poi è finita in bacca un'altra volta, vabbè. L'ambulanza va mentre la città finalmente sa che mostro. anni età non hai. L'ambulanza va. Beh, però qui siamo passati alle cose pesanti, caro Parenzo, dalla da com'è che ti ha detto l'altra volta? Ah, sì, bella la canzone di Renato Zero che dice finalmente sa che mostro sei, chissà a chi si riferisce, finalmente sa che mostro sei. Dai, lo Yin, lo Yang, lo Lismo, viene a spiegarci la filosofia greca, Menenio Agrippa, ci dica che cosa vota martedì invece sul processo breve, anziché farci ste pippe e ste invettive. Io lotto per i tuoi figli, ma quali figli? Oh, oh. Poi, la cosa meravigliosa è quella in cui ha detto vi combatteremo, ma chi? Ma chi? Voi delle lobby, ma quali lobby? Ma che dici? Vi combatteremo chi poi? Cosa combatti? Parenzo alla Zanzara, ma cosa combatti? Ma che dici? Una forza tranquilla, pacata. E poi come infatti rimanda quello che ha detto, di come no, noi siamo pacati, tranquilli, vogliamo ragionare. E poi dai. Va bene, ma c'è ancora, no? È andato via, che ha fatto, no? No, non risponde più, che fa? Non vuole intervenire perché c'erano tre cose serie, poi voi le avete buttato come al solito nel casino, cioè lui soprattutto, però noi, ma uno che parla di Olimpia, dai adesso, che mette nel simbolo lo Yin e lo Yang, forza responsabile, ti spiega dell'olismo, sei un cartesiano, dato del cartesiano, sei un cartesiano, insulto terribile, insulto terribile, cartesiano, dai poverino, uno che pensa solo, poi che ha detto pensa solo al profitto, al profitto. Io vorrei fare presente a Tricil Bodi, io sto per dire che è alleato con Berlusconi, insomma, che non mi sembra da questo punto di vista. Vabbè. Cioè, non è un samaritano, non è un frate, non è San Francesco. No, ma poi legittimamente, per carità. Certo. Però, vabbè. È alleato del miliardario, mi dice adesso si solo al profitto. Dai, Tricil Bodi, su. Ciro da Napoli, buonasera. Buonasera, Eros Thanatos ha fatto Sciri, prima ha detto che lo ama, poi che lo vuole cacciare, è impazzito Sciri poi, vabbè. Comunque io sono a Napoli, questo l'abbiamo capito. Una strada bellissima, ho di fronte il Golfo, sì. Un mare strepitoso, il Castel dell'Ovo illuminato di rosso, le navi che vanno verso Capri. Sì, noi siamo molto contenti, Ciro, anche perché La monnezza per un dato giornalistico, anche se non sono giornalista, c'è? È due anni, sì, la monnezza giù c'è qui in questo posto che è a 200 metri dalla famosa villa che voleva comprare Berlusconi pure a Napoli. Sì, la villa De Feo, no? Quella della signora De Feo in sede, sì, una villa sì. Bellissima che la signora non ha nessuna intenzione di vendere, ovviamente, che è stupenda, che io vedo da qui, sì. In questo momento c'è una villa veramente strepitosa, lui disse che voleva comprare, ma no, io sì, la monnezza giù c'è qui in collina molto di meno, sì. Il problema c'è. È pur vero che comunque già da due anni che il problema è che la responsabilità è della provincia e della regione, quindi il comune può fare veramente poco anche perché è in dissesto. Ah, c'è anche la provincia, giustamente ci fa osservare. No, c'è prima la provincia, poi no, la regione. Nel senso che già da la provincia credo da due anni o da tre anni. È in mano al centrodestra. Il paro c'è da tre, però la responsabilità sulla monnezza è da due. Quindi insomma, comunque volevo far osservare Ciribodi non c'è più, a Parenzo, che esce anche Responsabilità, il giornale promosso da Ciribodi. Ah, questo lo compro però, L'ha annunciato oggi lo stesso Ciribodi, infatti volevo parlare anche di questo, il quale all'Ansa... Sarà il direttore di questo giornale? Ciribodi stesso. Ciribodi direttore, Topolino sulla Luna, Ciribodi direttore. Affronta i temi più vari, qua dice l'Ansa, dal paradigma olistico alla scuola steineriana, all'anatocismo bancario, al mercurio killer silenzioso. Mercurio killer silenzioso, chiamiamo i RIS di Parma, i RIS chiamiamo. Vabbè, dai, insomma, bisogna scherzare sul mercurio. Comunque, il mercurio, ma ognuno ha le sue battaglie, eccetera. No, volevo chiedere questa cosa su Fini, perché è abbastanza bizzarro che Ciribodi chieda le dimissioni di Fini. Invece oggi ha detto proprio questo, ha detto sarebbe bene che Fini prendesse in seria considerazione l'ipotesi di dimettersi da presidente della Camera. È evidente come Fini non sia sereno e come la sua non serenità sta portando a una grande confusione. Volevamo anche parlare di questo, però poi alla fine ha sbroccato e niente. Vabbè, Ciro, al di là della sua descrizione molto bella, devo dire, di Napoli alle 20:39, al tramonto ormai già avviato, e di questa villa che Berlusconi voleva comprare. No, io volevo parlare di La Russa, veramente. E che voleva dire di La Russa? Beh, che siamo un paese in guerra, sì, che abbiamo i nostri soldati in Afghanistan, quelli in Libia e tutto quanto, e questo ogni mese sclera di continuo, ma insomma si rende conto che il ministro della difesa, qualcuno lo ha avvertito. Insomma, però anche qui mi permetto di dire una cosa, è vero che ormai le oggi potete... Io di fronte a Capri, guardi Cruciani, mi perdoni, sì, io di fronte a Capri e le dico, in questo momento la vedo, ci sta arrivando una bella nave col gran pavese. Però non ci faccia, se non ci faccia così. Chi frequenta Capri d'estate sa quale sia l'equilibrio psicofisico del nostro ministro della difesa. Le ho detto, le dico questo. Cioè? Lo sa benissimo. Non vado oltre perché Edoardo diceva uomini, uominicchi e uomini di niente. Dato che io considero la russa, voi avete il mio nome e cognome, la russa è un uomo di niente. No, però scusi, però lei dice così. Ma perché dico così? Perché chi usa il potere per aggredire persone che potere non ne hanno, chi fa quella cosa. No, scusi, dov'è l'aggressione in questo caso? Dov'è l'aggressione in questo caso? No, in questo caso no, però io le stavo dicendo, ogni mese sclera, lei sa benissimo a cosa mi riferisco. Beh, no, non lo so, me lo dica lei. Non è il primo episodio in cui la russa. Ah, lei dice gli altri episodi, gli episodi pubblici, per esempio nel caso di Formigli. Il caso di Anno Zero è ridicolo, ma anche quello dell'altro giornalista, ma non per Anno Zero la cosa. È proprio l'idea che chi ha il potere, invece di avere quel, insomma, voglio dire, usare il potere per aggredire anche solo verbalmente. Sì, però bisogna vedere chi è l'aggressore, chi è l'aggredito. I casi non sono tutti uguali. Ma se sei un ministro della difesa. Ho capito, gli hanno pure tirato le monetine davanti al Parlamento, attenzione, cioè non è che in questo caso ha provocato, che ha fatto? Ha provocato tipo Sharon davanti alla spianata delle moschee, che ha fatto? Ma i nostri soldati tirano le bombe, non ho capito, quello è il ministro della difesa, Cruciani, ma si rende conto? Ho capito, Ciro, però lei vuole guardi, io dico, non c'è nulla di più lontano per me da una persona proprio come persona di Ignazio La Russa. Ma questo l'abbiamo capito. In questo momento, ma non reputo una persona con pochissima dignità, ma in questo momento... Ma addirittura con pochissima dignità. Siamo in Italia, mi perdoni Cruciani, siamo italiani, siamo in Italia senza nessuna ritorno. Allora? Siamo in guerra anche verso la Russia, io proverei solidarietà se fosse un minimo degno di quello che fa. Cioè lei dice gli atteggiamenti che ha la Russia, che ha avuto nell'ultimo anno, eccetera, eccetera. È ancora più grave, ma come fa uno dei nostri soldati che sta lì, vede da camp non so che cazzo in Afghanistan, mi scusi un attimo Ciro, anche il presidente della Camera che dice vai a farti curare, cioè. Se a me me ne importa di difendere il presidente, io volevo far notare insomma che lui si considera una persona di destra, la russa, povera destra messa in queste condizioni. Vabbè, adesso chiunque sia, e in questo momento il ministro della difesa, lui dovrebbe essere lì che si fa le seghe mentali, perché per uno di destra è il top del top, il cappellino con l'aereo, le frecce tricolore, e proprio nel momento in cui siamo in guerra sclera, ma allora è penoso, o no? No, ma non è questione di onestà. A me questi atteggiamenti, queste smargiassate, naturalmente fanno ridere, ci fanno divertire, sono materia per le nostre discussioni, perché se non ci fossero... La trasmissione è divertentissima anche per quello, anche perché secondo me il gossip in questo momento in Italia non è per niente, cioè accusarla di fare la trasmissione di gossip è ridicolo, perché insomma, è lo specchio di quello che accade. Insomma, esattamente, anche perché il leader ha voluto che il suo corpo, la sua storia, la sua vita quotidiana fosse la politica, si identificasse con la politica, quindi il gossip fa proprio a pieno titolo parte della vita politica quotidiana. Devo dire bene, Ciro, grazie del suo intervento. Sei ancora dell'idea, Parenzo, di querelare Scilipoti, no? No, io non querelo mai nessuno, poi da lì c'è l'incapacità di intendere di volere, per cui non... addirittura. No. Ma no, scherzo ovviamente, ma come si fa a querelare in uno scambio dialettico così? Io non ho mai querelato nessuno, a meno che uno non mi offenda, non dica delle falsità, ma fino a quando è uno scambio così, poi poverino, ma voglio dire, ma la gente si renderà anche conto, l'ollismo, tutte queste... Ci spieghi, richiami, se è un uomo, io faccio questo appello, se ci stai ascoltando, onorevole Scili, e sei un uomo, anziché parlare di dualismo, di teorema di Pitagora. Dici di come panteismo. Voti martedì, dici come dici voti. Che voti martedì, dici che cosa voti martedì, dici che cosa voti martedì. Cilipoti, richiami. Siamo qui 20:46 800 24 0024 per chiamarci in diretta. Giovanna ci chiama da Genova. Buonasera. Buonasera. Dica. Dunque, io volevo fare una piccolissima considerazione. Sì. Divertenti le dichiarazioni del nostro presidente del Consiglio di ieri dalla Sicilia, no? Sì, divertente. E però contestabilissime, come avete fatto voi col sindaco, eccetera, eccetera, no? Ma la il dato di fatto, che io forse sono un po', come si può dire, dico un po' la cosa più ovvia forse, però ma ci pensate che è 24 ore che non si fa parlare che di questo? Beh, non è vero, signora Giovanna. Beh, no, è non c'è. Un bel colpo. No, cioè, tra l'altro, mi scusi, la rissa di ieri con gli strascichi di oggi alla Camera, in realtà ha molto irritato, come si legge sui giornali di oggi, lo stesso Berlusconi, perché in realtà voleva naturalmente che si parlasse molto di Lampedusa e che il processo breve e che il processo breve andasse, come dire, spedito, no? Invece alla fine no. È stato rinviato la settimana prossima. Si parla del contrasto tra la Russia e Fini, eccetera, eccetera. Per cui, insomma, da questo punto di vista Berlusconi pare molto arrabbiato per quello che è accaduto ieri. Però intanto Fini sta perdendo altri punti nei confronti. Vabbè, quello non lo so, rispetto a quale, come fa a giudicarlo? Rispetto al discorso del, diciamo, della si può dire dell'antagonismo che ci può essere. Ma questo non lo so, se sta perdendo altri colpi, questo come si fa a giudicarlo? C'è da dire che però quello che la mia considerazione è molto banale. È che io abito a Genova in una zona nel Levante dove c'è vicino un locale dove la Rubi lavorava. Allora? Beh, allora io non abito più in quella zona, ma abito vicino al dove di questo locale. E allora? Allora vuol dire che insomma a un certo punto la gente, non so come dire, diventa una cosa di costume. Vabbè, cioè, diciamo, questo locale è in una zona a quarto, sì, e io sì. Abito vicino a questo locale. Okay? Quindi... E allora abita vicino a questo locale, dunque? E dunque, quando lei dice, dicono, ah, vicino al è il nome del locale. Per forza, vabbè, Giovanna, a parte che è no... divertente perché fa moda, fa... Non so come dire. Beh, contenta lei, io non lo so. Insomma, adesso. No, non sono contenta, cioè io non sono berlusconiana. No, ma ho dico capito, signora Giovanna, adesso non penso che il problema degli abitanti di Quarto sia quello che il loro paese è riconoscibile come il luogo dove c'è la discoteca che frequentava Rubi. Adesso, insomma, esatto, è come dire a Greenwich c'è il meridiano. Però il problema è che comunque qualsiasi cosa lui o le persone del suo giro, diciamo. Sì. Fanno una dichiarazione, dopodiché per un giorno, due, sì. Tre, cinque. Il presidente del Consiglio, quando parla il presidente del Consiglio, e poi uno come Berlusconi mi sembra inevitabile. Signora, la ringrazio moltissimo. Non si preoccupi, che a Quarto il nome non è sputtanato. Però adesso con calma, Parenzo, io ho richiamato l'onorevole Scilipoti. Volevo fargli questa domanda famosa che gli volevi fare. Per cortesia, sì. Onorevole Scilipoti. Anziché parlarci dell'olismo e del teorema di Pitagora, ci può dire che cosa voterà? Perché ha fatto già confusione. Che cosa parliamo di cose serie. Vabbè, scusi, mi spieghi cosa c'entra il teorema di Pitagora? Il teorema di Pitagora non c'entra. Ma non lo so, va bene, la grotta di Platone, l'olismo e poi adesso non fare ironia, però fai la domanda senza inutili ironie. Cosa voterà sul processo breve, favorevole o contrario a quella porcata che si sta per votare? Questa è la domanda. È favorevole o no, dice Parenzo, alla porcata che si sta per votare il processo breve, secondo Parenzo? Scusi, ma come faccio a capire? capire il linguaggio di Parenzo, che parla di porcare perché è abituato a parlare con i porci, e dico, non mi faccia dire delle cose che poi diventano pesanti, cioè allora, come potrei capire. Però allora togli la porcata, Parenzo, mi chiama, io mi dispiace per lei, signor Cruciale, mi chiama per farmi una domanda seria e poi lo so, ma la butta in vacca, la butta in vacca, pensa di parlare con i suoi simili e utilizza una terminologia che lui normalmente è abituato a utilizzarla e a frequentare anche personaggi del nome che lui sta utilizzando, ma ciò diventa difficile colloquiare. Io vi ringrazio quando avrete delle cose interessanti da chiedere. Però, è bene, auguri e una buona serata. Un attimo. Onorevole Scilipoti, un secondo. Davide, cavolo, dovevi stare un po' più calmo, affrontalo. No, cerca ma gli ho chiesto semplicemente. Ho capito, ma tu inizi il teorema di Pitagora e poi il processo. Ho capito, lo provochi. Chiaramente. Ma noi facciamo. Lo provochi. Ho capito, ma cerca di no. Ora sto zitto, fagli tu richiamo. Ma ormai è caduta la linea, siamo in conclusione. Che dobbiamo fare? Ma questo non c'è niente da fare tutto il giorno che sta lì. Però scusa, non è che te lo devo insegnare io. Cioè, bisognava cercare di... Secondo te che cosa avrebbe risposto? È una cosa che lo mette talmente in contrasto. Secondo te vota contro il processo breve adesso? La mia era una cattiva domanda retorica, è evidente, perché lui sicuramente per stare in quella maggioranza lì dovrà votare anche il processo breve. Invece ci deve parlare di olismo, anatocismo, menchismo e tutta sta roba. E yin yang è il simbolo, è responsabile, è mia figlia, è sua figlia, è tua mamma, è Cruciani, è la figlia di Cruciani. Chi se ne frega cosa vota sul processo breve? Siccome ho capito, ma noi, se io lo chiedevi in maniera semplice cosa vota sul processo breve, magari ottenevamo una risposta. Siccome tu ci hai messo cosa vota sulla porcata del processo breve, prima invece di parlarci del teorema di Pitagora, dell'olismo, eccetera, eccetera, quello si è fatto girare le palle un'altra volta. Su questo devo dire la verità, perché non è che voglio bestemmiare, però capisco la mentalità. Però detto questo, poi ognuno, non è che ti voglio insegnare nulla. No, hai ragione tu, mi dispiace, ho sbagliato. No, va bene. No, perché poi la risposta di Scilipoti sul processo breve non era, come dire, la risposta del secolo. Però detto questo, se mi volete chiamare per parlare di cose serie, quali sono le cose serie? L'olismo, non mi ricordo neanche le parole, ha perso 10 minuti a parlare dell'olismo. Voi non sapete neanche che cos'è l'olismo. No, non so che cos'è l'olismo, non mi interessa l'olismo, non mi interessa, mi fa schifo l'olismo, va bene? Si può dire? L'olismo. Andrea da Roma, buonasera. Sì, dica. Sì, buonasera, faccio fatica a recuperare il motivo della chiamata originale. La professione che ho assistito, francamente. Però se Parenzo mi spiegasse cos'è l'olismo, perché francamente a me manca questa informazione. No, ma è una cosa molto importante, io lo so, cioè, perché io poi lo capisco, però che tutto questo debba essere portato all'interno di una discussione che riguarda il Parlamento, va bene facilitare le medicine alternative, quello che vogliamo, ma insomma non è che può essere un motivo di discussione parlamentare, secondo me. Se ne discute nei consessi, eccetera, ci sono delle leggi, quello che vogliamo. Va tutto bene, però il passaggio dal cartesianesimo. Vabbè, comunque, Andrea, mi dica. No, allora, il motivo della mia telefonata è stato dovuto all'intervento che avete fatto fare all'onorevole Napoli, che ho definito la sua collaboratrice. Non so se è più vergognoso quello successo in aula o più ridicolo quello che stava dicendo, perché cioè? Nascondersi dietro il non conoscere le condizioni di salute di una persona, tra l'altro di una persona che penso una persona. No, lui non ha detto che non conosce, scusi un attimo, l'onorevole Napoli non ha detto che non conosceva le condizioni di salute, ha detto che non sapeva che la signora non poteva applaudire, questo. Ma che equivale, insomma, sapendo. Beh, no, non è vero, perché ci sono. Aspetta, Parenzo, aspetti un attimo, Andrea, aspetti. Niente, ha tirato giù. Non è lo Scilipoti? Niente. Parenzo, ho tentato il blitz. Andrea, allora no. Dire cosa ha avuto martedì, io mi fermo. No, ripeto, non sapeva che l'applauso le era impedito, insomma, questo ha detto. Beh, Napoli. Non è che tutti i disabili non possono non possono, cioè, c'è disabilità e disabilità, naturalmente. Ci sono disabili. Una persona pubblica, mi risulta che l'onorevole Napoli non sia arrivato al proscenio. Magari non ci ha fatto caso, che cosa vuole che le dica? Così, cioè, magari non ci ha fatto caso. Io mi auguro che abbia un po' più di attenzione per le altre cose che gli succedono. Sì, effettivamente. È un personaggio molto conosciuto. non Napoli, la sentista è un personaggio, da sicuro non risponde molto in simpatia, però è un personaggio conosciutissimo perché ha fatto molto parlare di sé anche sulle cronache mondane. Sì, quindi, beh, mondane non lo so, insomma, mondane non credo. Ma, no, sia. Ma guardi, basta, non voglio essere uno scritto, chiunque segue un po' le cose che lei ha fatto per attirare l'attenzione sulle sue ragioni, le ragioni mozziate, sì, perché sì. Addirittura arrivò a sfilare, a fare una sfilata di moda, sì, come no, avendo certo. Come se prima indossatrice, se stessa la prima indossatrice, quindi sono cose di cui ormai da 15 anni si parla. Va bene, Andrea, grazie, grazie. Siamo quasi in conclusione, abbiamo Marina da Bergamo, buonasera. Oh, buonasera, mi dica, Marina mi dica, di origine sarda. Sono di origine sarda, bene. Dunque, no, io sono molto dispiaciuta perché vedo tutti sti politici, soprattutto sì. Quelli di sinistra, che proprio non sopportano proprio di essere all'opposizione. Vabbè, adesso che c'entra, signora? In che senso? Stanno sputando veleno. Ma che vuol dire stanno sputando veleno? Ma non anche queste monetine, dai, queste monetine. Beh, monetine fuori dal Parlamento, per fortuna, lei ha ragione su questo, per fortuna però non ci sono parlamentari che tiravano le monetine, eh. Magari qualcuno li ha bellicati, magari qualcuno non li ha condannati a sufficienza, però non è che Franceschini si è messo a tirare le monetine, poi naturalmente si possono tirare le monetine. No, non sto parlando di Franceschini. Però li aizzano proprio e sono un po' proprio... li aizzano, sì, un po' li aizzano, sì, un po'. Miseria. Non li condannano, diciamo, più che li aizzano e non li condannano. Sì, mi pensi che io ero una finiana sfegatata. E invece adesso? No, proprio quando c'è lui devo cambiare canale che proprio mi ma fa proprio star male. Le fa schifo. Non per cattiveria, proprio mi fa no, schifo. Mi fa vabbè. Star male, proprio mi sento male. Si sente male, però... Questa è una cosa brutta. È una cosa brutta, beh, lo so, sì, è una cosa brutta, certamente. Si sente male, sì. Le mando Scilipoti come medico, se vuole, perché è specialista in queste no, situazioni, le medicine alternative, le cose così. Dobbiamo chiudere, caro Parenzo, ci sentiamo... Va bene, bella questa trasmissione. Bella questa trasmissione, no? No, è una bella trasmissione, è interessante, che molto varia, i vari ascoltatori, la musica. Però sei bravo, cosa devo dire? Bravo, ci sentiamo domani, 18:30, ciao. Ciao. Vi combatteremo! La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. Una cosa, non vi preoccupare. Radio 24, la passione si sente.